Ciao a tutti, ciao. Intanto non siamo molti, va bene, riusciremo a lavorare meglio, forse. Allora, intanto, proprio perché creare il clima relazionale giusto, anche se Giulio un po' già mi ha presentata, preferisco dirvi io chi sono, in modo che mi avvicino un po' a voi, e poi dopo mi piacerebbe che per piccoli flash mi dite voi chi siete e dove lavorate, ok? Allora, io sono Laura Corrente, sono psicologa e psicoterapeuta, come diceva Giulio, per cui rientro nelle professioni di aiuto, chiaramente, ossia in quelle professioni di aiuto in cui lo strumento di lavoro fondamentale è se stessi. Ok? Lo stesso vale per voi. Ok? Sono mamma di due figli piccoli, Mattia e Nicola, sono piccoli, 4-5 anni. Mi occupo di supervisione negli SPRAR. Chi di voi lavora negli SPRAR? Nessuno? Solo Bahia? E tu? Ok, tuo nome? Da Filippino. Da Aiuto! Filippino. Il mio cognome è da Filippino. Daim. Sì. Daim, No, è ok. Daim. Ibrahim. Ibrahim. Ok. Quindi mi occupo di, diciamo, elaborazione di contenuti e di emotivo che si condivide all'interno di un'equipe che lavora in uno SPRAR, all'interno del quale, come sapete, all'interno della quale equipe ci sono anche i mediatori culturali, anche alla pari. Voi siete mediatori culturali alla pari, giusto? Ok. Poi mi occupo di, diciamo, volontariato presso un'associazione che accoglie pazienti gravi, psicotici, sarebbero pazienti che prendono farmaci, che hanno delle patologie croniche. Ok? Vabbè, se vi vengono curiosità, chiedetemi pure. Intanto passiamo a una piccolissima presentazione. Sono Leander, vengo da Sri Lanka, Sri Lanka. sono mediatore culturale per Sri Lanka. Lavoro un paio di anni con CS Onlus Roma, ETC Roma, poi Napoli, CDC Onlus di Erasmus. Ok. Vivo qui a Salerno, Vivi qua. quasi 30 anni qui a Salerno. Ok, da quanto tempo? Quasi 30 anni. Quasi 30. Beh. Bene. Nina. Sono Nina Ivoa della Georgia. Georgia. Sto 7 anni in Italia e da poco che faccio, Mediatrice. diciamo, Interprete. interprete, sì, nella Ok. commissione tra Napoli, Salerno, Caserta, in lingua georgiana, tutto, Ok. e russo anche. Bahia. Vengo da Roma, faccio la mediatrice. Lavori negli SPRAR, sicuro. Conosco Bahia perché lavora presso lo SPRAR di Ottati, dove io faccio supervisione. Però abbiamo un'associazione, Presidente. un'associazione Ubuntu, Nuova Generazione Italiana, che si occupa anche della buona integrazione delle nuove generazioni nel Ok. territorio. Bene. Dora Dora. Raffi, sono tunisina, Tunisina. da 5 anni che sono in Italia, pure io sono un membro di Ubuntu, una segretaria, Segretario. e collaboro anche su qualche progetto come mediatrice con le ACLI di Salerno. Ho fatto piuttosto la mamma durante i primi anni e Immagino. adesso mi sono un po' Indirizzata nel lanciata nel lavoro. mondo Del di... lavoro. Ok. Douglas Chabo, sono del Camerun. Devo dire la verità, sarà complicato memorizzare i vostri nomi, Sì. eh? Io mi sforzerò, però sarà complicato. In italiano si dice Douglas. Douglas, Sì. forse così mi è più semplice. Sono del Camerun, fanno 3 anni che sto qui in Scusa, grazie. Italia. Sì. Non sto lavorando e sto facendo un corso per prendere la licenza media, perché da Ok. quando sono arrivato qui in Italia ho sempre fatto l'autodidatto per imparare la Ok, lingua. l'italiano. Sto facendo l'interprete a Salerno, volontario con l'associazione Kairos. Ah, sì. E poi non sto lavorando. Va bene. E in direzione di prendere questo titolo di mediatore, no? Sì. Ok. E lavoro, no? Certo, lavoro. Ma anche questo è lavoro. Allora, diciamo il tema da fe, sono da Gambia. Sono in Italia da 4 anni e mezzo, facevo mediatore in centro di accoglienza e CAS. Dove? CAS San Leonardo. Località? Forni. Forni, sì, ok. Vicino alla chiesa. Sì, sì, sì, ho capito quello. Quello sì. Centro di fronte a Econa. Sì. Poi ho fatto, lavoravo anche allo stesso tempo al, come si chiama, SPA, perché il responsabile teneva anche SPA. Ok. Quindi facevo tutti e due la Casa e SPA. Casa e SPA. Ho fatto una volta esperienza alla commissione e adesso sto lavorando al ristorante. Ah, ok. Va bene. Mi chiamo Alfred, sono da Costa d'Avorio e vivo in Italia da 1 anno e 8 mesi. E sto studiando anche, faccio l'interprete. Interprete, ok. A Salerno? Sì, lavoro Salerno. A Salerno. A Salerno. Ok. Io mi chiamo Turia Amara Mangiù. Ricordi Turia Amara Mangiù? Turia. Ok. Io vengo dalla Costa d'Avorio come da lui. Sì. Milano. Capitale io. Ok. Tutti uguali, tanto cosa da voi io. Sempre quella. Va bene. E lavoro a camera, come dire, come esperienza interprete non l'ho fatto proprio, però aiutavo nei comitati dove sono stato, fatto lavoro di mediatore come traduttore. Poi mi sto prendendo la patente, faccio dei corsi diversi, devo continuare nel superiore. Sì. Poi sto cercando di fare traduttore anche, perciò sono qua. Okay. È tutto questo. Quindi tutti siete belli attivi, non c'è nessuno che sta fermo. Ok, allora il focus di oggi. La relazione. Leggete tutti l'italiano? Sì. Tutti? Bene? Proviamo. Ok. Se avete difficoltà me lo dite. Io lo dico verbalmente, ma però. Non siamo come italiani. No. Però io lo segno perché così lo schema vi aiuta di più a ricordare delle cose. Sì, solo sì, per sì. Questo. In senso va bene? Che quelli più forti che sono proprio dai universitari italiani, che non possiamo. No, possiamo leggere, magari non capiamo che cosa significa. Ve lo io sto qua per spiegarvelo, però non sì, vi preoccupate. Grazie. Allora, innanzitutto mi verrebbe da fare. Okay. Così. Allora. Questa è una sagoma, no? È una persona. Allora, vi chiedo, allora, sarà una lezione interattiva, vi chiederò tanto, no? Allora, vi chiedo motivazioni, cioè perché vi siete avvicinati a questo lavoro? Perché? Perché vi siete avvicinati a questo lavoro? Avreste potuto scegliere altro, no? Sì. Perché se ci rendiamo conto, quando siamo arrivati in Italia e non parlavamo italiano, era molto difficile risolvere il nostro problema, né andare in ospedale, comunicare con gli italiani. In centro è difficile perché non possiamo dire cosa che vogliamo e non possiamo avere un buon risposto perché non ci capiamo. In ospedale è uguale, autobus, quindi abbiamo sempre questo a lavoro per aiutare quelle che non hanno voce come noi. Ok. All'interno dell'uomo metterò le vostre motivazioni personali che vi hanno portato a scegliere questo lavoro, ok? Aiuto, dare voce, ok? Ci capiamo così? Sì. Cioè lui dice dare voce a chi non sa esprimersi, ok? Perché io prima di tutto ho attraversato questa difficoltà, va bene? Questo c'è il io, per me anche un pochino quasi le stesse, però c'è io ho lavorato sempre nelle associazioni, allora anche relazionarmi con le persone è stato anche il mio obiettivo di fare questo lavoro, okay. Avere più rapporti con le persone e soprattutto quelli che ne hanno bisogno, okay. Cioè in cui posso dare qualcosa. E poi vivendo qua nel mio percorso, sì. Ho avuto anche io sofferenza, e allora per aiutare anche per una buona integrazione della mia comunità ho cercato anche di studiare, di arrivare a queste cose per non lasciare, per avere almeno le basi per i nostri figli, okay. Che noi quindi, non abbiamo provati. Per integrazione della famiglia, sì. Della comunità. E non solo. Della non solo. Comunità. Perché una famiglia non può cambiare niente, invece la comunità cambia tanto. Comunità. Forse è un po' piccolo, però dopo non ci andiamo. Ok, sì. Allora io invece, quando ho sentito che sta questo corso, mi ha detto che è più specificato nell'ambito del sanitario. Mm. Ho detto, ma ho pensato a un ragazzo africano, un ragazzo, un immigrato che viene dal mare e viene a portare tante malattie come sono stato io, che però quando arriva in ospedale è un posto dove c'è differenza tra lui e le persone e ha paura di esprimersi perché può pensare male, come sono stato io. Mm. All'inizio quando siamo entrati hanno detto che non per fare i prelievi del sangue avevo paura, perché da noi il sangue, no, perché vogliono vendere il mio sangue. E poi ho capito che non è il contrario proprio che vogliono aiutare. Ho detto, ma possono essere qua io, l'interprete, il mediatore, facilitare la comunicazione, aiutare il ragazzo, farlo capire che è per il suo bene. Mm. Quindi il motivo proprio è questa cosa. Cioè rassicurarlo, quella persona che sta vicino a me, sì. Si sente più come io e lui parliamo la stessa lingua. Quindi può essere più assicurato. Quindi rassicurare. Assicurare. Così. Sì. Ciao. Ok. Altri? Si dora. Anch'io. Più facile il suo nome, Non è proprio differente, è proprio più semplice. Cattoni okay. Animati, famosi, Dora. Dora, Nina e Bahia, sono più semplici. Pure io ho avuto una... Sei femminista. Cioè. Sei femminista? No. Penso la stessa... Come si dice? Le stesse emozioni. All'inizio non parlavo italiano e avevo difficoltà a uscire, a andare a fare anche la spesa perché non volevo trovarmi davanti a una persona per le visite mediche dovevo andare con mio marito che lui faceva di interprete e facendo lui il lavoro dell'associazionismo mano a mano mi sono trovata a fare delle piccole lavoretti di interprete, okay. Per anche una volta all'ospedale con un rifugiato siriano e quell'aiuto che avevo dato a quella persona che adesso dopo 5 anni siamo ancora in contatto mi ha detto quell'aiuto che ho dato a questa persona che lo voglio ancora replicare con altri perché okay. Vi posso far notare una cosa? Vi voglio far notare come è emozionata Dora a raccontare di questo aiuto dato, questo per dire, vero Dora? Questo per dire che quanto utilizziamo noi stessi nel lavoro che facciamo come mediatori, come professionisti dell'ambito dell'aiuto. Ok? Grazie Dora. Quindi scriviamo aiuto reciproco, perché lei ha detto aiutando lui mi sono aiutata. C'è stato un flusso tra me e lui, ok? Ok. Qualche altra sì. Allora, in questo caso, come queste case chiamano te utente e straniero, sì, no? Sì. Quindi noi andare in mediazioni per fare relazioni con la ente deve essere sempre neutro. In queste case neutro, anche prendere posizione nessuna parte, anche come dire che senza sostituire l'utente, e anche un ascoltatore, parte entrambi due parti per mediare, per dare questo insegnamento. È un po' complicato il vostro lavoro, hai anticipato un po' quello che vedremo più avanti, cioè quali sono le capacità che deve avere un mediatore, sia da un punto di vista tecnico, fatemelo passare, che da un punto di vista umano, ok? Cioè, soprattutto noi alla pare è difficile di essere professionisti fino in fondo. Cioè, sì. Anche li puoi fare con altro, ma cioè, della tua comunità è difficile perché li capisci fino in fondo. Quelle certo. cose l'hai vissuto tu sulla pelle tua. Certo. Allora, le persone che vedono da questo, ma non è così, ma deve essere così. Però no, se uno che è cresciuto per 30 anni a fare una cosa o avere un'idea, essere anche cambiata quell'idea un momento, cioè non è facile, allora ci vuole anche il tempo sì. per qualsiasi cosa. Infatti Bahia, io sono d'accordo con te, anticipiamolo questo pezzo perché vedo che per voi è importante. Sì, sicuramente fra le abilità che deve avere un mediatore c'è la capacità di decentrarsi, è una parola un po' difficile, però significa intenzionalmente, come dicevi tu, essere tra virgolette neutrale affinché si possa facilitare la comprensione tra chi conosce come voi i mediatori fino in fondo la realtà, la conflittualità, l'emotività dell'utente, non lo chiamo beneficiario sì. nello SPRAR, e invece dall'altra parte chi ha una cultura diversa e che accoglie l'utente nei suoi servizi, nei suoi centri di accoglienza, eccetera, eccetera. È chiaro che quando tu dici neutrale, neutrale è una parola un po' equivoca, cioè nel senso che è complicato definirla, perché per neutrale tu intendi che non bisogna aggiungere contenuti, cioè cose, parole che l'utente non ha detto, solo questo? Io. Cioè tradurre alla lettera quello che... Tradurre alla lettera sarebbe un interprete, ma non è un mediatore. Io penso che no. No. Perché io penso che se tu sei un interprete, tipo ti devi fare interpretare qualcuno che sta in ospedale, okay. che non parla la lingua. Quella persona parla la lingua che tu parli, tu vuoi dire che quella spiega quello che capisci tu. Certo. Se tu capisci che questa vuole dire questa, per me non ha senso di tradurlo giusto come l'ha detto lui. Ok. Se tu parli italiano e parli quella lingua, e questa persona vuole dire questa, però il modo l'ha detto, magari se tu lo spieghi a questa nello stesso modo in italiano, si offende. Mm. In senso che l'altro non voleva offendere, però in suo paese, in sua lingua, questo è il modo che sta dicendo. Sì. Questo è il mediatore. Sì. Quindi tu non devi, non è che è giusto, devi andare diretta in fondo e dici questa che vuole dire. Io ho fatto esperienza con uno nigeriano che, sì. non uno, due di loro, che erano appena sbarcati e avevano malattie infettive. E li hanno portati in ospedale, stavano là per 20 giorni senza parlare con nessuno. E non potevano chiamare la loro parenti per dire che sono arrivati. Quindi, Samionato hanno comunicato il CASLA che stavano vicino a noi. Sono andato a fare interprete. Queste persone sì, erano un poco incazzate perché stavano là da 20 giorni e non potevano comunicare con nessuno. Quindi il modo che parlavano, se io spiegavo così dal dottore, magari lui si offendeva. Dopo magari chi ne sa, dottore, sono le persone, magari si ribella dopo. Si dice che va bene, questa io cerco di aiutare e indietro mi dici così, parlo così di me, non me ne frega, faccio il mio lavoro. Senza che... Sì, volevo ritornare a te però, no? Tu quando usi la parola neutrale mi spieghi meglio che cosa vuoi dire? Umiltà significa, allora, io senza sostituire né parte d'utente né con operatore, capire la situazione di questa relazione tra di loro, per esempio in questo caso Asan, sì. Senza sostituire il medico, io parlo con lui, ah, il mio mediatore, lui spiega le situazioni, lui se ne va via, no, io ascolto con lui, però parlo con il mio paesano, che capire quale sua magari se non vuole, perché non vuole fare questa cosa, magari qualsiasi situazione, fare capire per lui la situazione. E dopo di che portare un punto di incontro. Questo. Ok. Senza prendere nemmeno sua posizione. Essere, perché ci sono i storici, quando raccontano le cose, tutto. Cerchi di ascoltare, far passare. E dirà molto. Infatti. Per togliere sua paura, magari i suoi dubbi, se si può fare per la mia, con la mia professionalità. Dare supporto psicologico, un po' di supporto psicologico per sì, sì. Finiamo di raccogliere le motivazioni, dopo riprendiamo proprio questo punto che, come vedo, vi attiva molto emotivamente. Sì. Che altre motivazioni vogliamo aggiungere? Per me erano le interazioni, perché da quando sono uscito del Camerun ho incontrato il resto di popolo dell'Africa, perché ho avuto interazioni con i senegalesi, maliani, gambiani, e mi è molto piaciuto. Anche in Morocco sono stato molto con loro, perché non frequentavo quelli là del Camerun, stavo con gli altri. E quando sono arrivato qui nel CAS c'erano quelli che avevano la voglia di riuscire, di combattere, di lavorare, di fare tante cose, ma non potevano esprimersi, che anche nonostante che non hanno studiato, ma vedendo le cose cercavano di andare davanti. Io con questa diciamo fortuna che ho avuto di studiare in Camerun, poi mi sono messo a studiare velocemente la lingua, mi è venuta questa voglia all'interno di me di poter fare qualcosa, di poter avere, diciamo, un'interazione tra loro e i direttori, i dirigenti del campo. È così che mi è venuta questa quindi cosa. Migliorare le interazioni, va bene, se sì, diciamo così? Lo scambio dei valori, perché ho imparato a fare i tè, le cose, il chai, tutto questo. Quindi favorire scambio di valori? Sì. E integrazione e interrelazione, sì, lo scambio tra gli immigrati e gli altri. Ok, vogliamo aggiungere altro? Sì. Secondo voi perché siete capaci di fare questo lavoro? Quali sono le vostre caratteristiche personali che vi fanno riuscire in questo lavoro? Se è un'altra domanda difficile. Perché penso che riusciamo a controllare il nostro senso e avere pazienza. E avere la pazienza di ascoltare come voi si può lui. Ok, pazienza. C'è una teoria. Comunque abbiamo passato, no, questa difficoltà abbiamo incontrato quando siamo appena arrivati. Sì. Non riuscivamo ad esprimere, dire, parlare. Quindi la vostra storia personale è un valore aggiunto che vi fa comprendere meglio l'altro? Però anche abbiamo tanta umanità. Umanità. Che purtroppo non c'è più. Ok, storia personale. Anche questo caso entra, no? Magari perché questa casa ha sempre, no? Magari un straniero che ha paura quando è il dottore, che oh, io questo per esempio non è convinto, mi sembra paura. Questo ospedale mi togliere questa paura di tranquillizzare, capacità di tranquillizzare. Io lo traduco contenere emotivamente, cioè riuscire a contenere la paura dell'altro. Quasi riempito, dimmi tu. Io direi che la mia capacità di primo il mio background, background. Cioè il fatto di alla difesa dei miei coetanei, io sono stato a scuola. Okay. Questo è un vantaggio per me, perché quando incontro gli altri ragazzi che non sono andati a scuola, ad esempio siamo stati nelle CPA, a scuola, là, sì. Ragazzi che non sono stato mai, che hanno studiato solo l'arabo, cioè è difficile per loro integrarsi facilmente riguardo a me, questa cosa. E la mia flessibilità, cioè se io sono davanti a te, so che tu ce l'hai una cultura diversa da me, io cerco di capire a te, di non essere troppo rigido con le norme, le passioni, okay. Siamo diversi, dove devo capire perché tu ti comporti così, sono sempre così, anche nella comunità là, e gli operatori dicono questa regola ci sta, dovete accettare, io dico qua funziona così, io ho bisogno di loro, io mi devo comportare, devo rispettare le regole e poi devo chiedere, farmi capire di che cosa ho bisogno io per avanzare pure nella mia vita. Quindi flessibilità. Flessibilità anche. C'è rimasto una mano, un braccio. E manca pure una motivazione. Vai. Difendere. Quindi il dovere di aiutare per difendere. Perché è giusto. Cioè, questo è giustissimo. Adesso vi faccio uno schema. Sì, no. Dovere. Vi aiuto così se faccio gli schemi? È più facile? Ok, dovere. Nome? Alfred. Questo pure lo posso imparare perché in italiano Alfredo. Quindi Alfred. Ok. Tu come Salvatore? Allora, questi sono i vostri confini personali. Ok? Questi. I vostri confini personali, ma per fare il lavoro di mediatore culturale e in tutte le professioni di aiuto non basta avere dei confini personali, bisogna avere dei confini anche professionali. Un po' brutto questo, no, persona, no? Perché? Perché secondo voi? Che non sono divisi, eh? Cioè nel senso, qua c'è interscambio, no? Perché secondo voi è necessario avere anche dei confini professionali per svolgere questo lavoro? O comunque per stare in una professione che sia di aiuto? Perché noi abbiamo qualcosa in più. Innanzitutto come capacità in più, ok, al pari di un tuo connazionale, che può aiutare, però fino a un certo punto che non conosce tecniche, non ha le competenze per che mediazione. Sì, non è... sì, pure sì. Questi confini professionali che stai dicendo, quello che stiamo imparando qua o che abbiamo già? Quello che imparate adesso e che imparate ogni giorno lavorando. Con l'esperienza. Esperienza nell'ambito. Perché in un corso è chiaro che noi vi diamo delle informazioni. Io, per questo a me piace interagire, perché altrimenti sarei potuta venire e scrivere un sacco di cose teoriche, ma non ci aiutava rispetto al tema relazione d'aiuto. Ture, quindi le competenze si apprendono sia teoricamente in un corso con un'esperienza di gruppo, ma anche con l'esperienza pratica, lavorando con all'interno di un contesto che può essere lo SPRAR, può essere l'istituzione, non lo so, ok? Il tribunale, ok? Per una. Ok, Anche io penso che ogni lavoro ha la sua professionale, quindi sì. Il mediatore è un professionale, è un professore. Quindi chi deve essere è uno competente. Deve essere una cosa, deve avere i tuoi confini di professionale, vuol dire che quando stai facendo il lavoro non vai molto oltre quello che devi fare. Anche l'investimento, no? Di tempo, di emozioni, di tempo, che sfora sempre. Di emozioni, continue telefonate, perché anche se non si è al lavoro si deve aiutare i colleghi dell'equipe a capire che cosa sta dicendo l'utente. Allora io nella mia esperienza, allora prima usavo sempre il mio carattere, il mio per andare a lavorare. È andato bene, però fino a un certo punto qualche volta. Non è che non andava bene il lavoro, ma non sono andata bene io perché mi stanco. Oh, finalmente. Cioè non ce la facevo più. La professionalità l'ho usata più con italiani e più con la mia connazionali, sì. Perché con l'altro deve essere sempre professionale, se no ti mettono un pochino giù, allora per forza devi usare con loro la professionalità. Con i miei connazionali l'ho usata quando superano i limiti, allora io comunque rimango sempre me stessa. Cioè, però quando vedo che l'amicizia supera i limiti o cioè, qualcosa che si cambia, richieste eccessive, continue, anche modo di parlare, continue, esempio, cioè anche il modo di parlare, come loro cambiano, allora quando li fai sentire che comunque io sto, la mediatrice, le fai ogni tanto, loro si svegliano, anche li capiscono, non è che sono sceme, allora sì. Deve usare questa professionalità al momento giusto. Per mettere limiti. Sì. Ok. Dora? Penso che sì, è importante questo confine. E mi rendo conto, per esempio, con, come si chiama, Mesen, sì. Questo rifugiato, che poi io non mi sono messa, diciamo, come mediatrice, ma piuttosto come una persona che... Lo voleva aiutare. Aiutare. E, che è successo? Allora, lui viene con un background, cioè la guerra, aveva perso la sua famiglia, i suoi bambini, sì. Ha conosciuto la Libia, eccetera. Quindi aveva bisogno, poi non è rimasto mesi all'ospedale, prima a Napoli, poi a Battipaglia, e nessuno parlava con lui, perché nessuno parlava l'arabo, nessuno... Sì. Quindi aveva bisogno continuo. Sì, e aveva anche, diciamo, dei momenti di, secondo me, di legato al suo trauma, immagino, che aveva, poteva non chiamarmi per 2 o 3 giorni e per un giorno a mezzanotte mi chiamava quando aveva quella paura, quella che voglio. E tu cosa facevi, Dora, a mezzanotte? Io rispondevo all'inizio perché sentivo che dovevi. Sì. E quindi, ma durava poco, mi diceva che non si sentiva bene o che pensava ai suoi figli. Lui si sentiva rassicurato e poi finiva. Però mi sono resa conto che lui a un certo punto aveva esagerato. Sì, ma era più forte di lui perché non aveva nessuna una dipendenza. E i primi tempi ho iniziato magari a non rispondere una volta, poi rispondevo un'altra volta, lo chiamavo io. Ha capito, poi mano a mano ha capito che non poteva più dipendere da me e dal mio aiuto e ha dato meglio così la relazione, che sia per lui e anche per me. Ok. Bahia e Dora ci hanno detto una cosa fondamentale, perché quando io vi ho chiesto ma che cosa servono i confini professionali, innanzitutto ci servono come mediatori, sì, tutti d'accordo, a cosa servono, tutti quanti vi siete focalizzati su ci servono perché così aiutiamo meglio, lavoriamo meglio, quindi aumenta il benessere del utente, del vostro connazionale in questo caso. Bahia e Dora hanno detto una cosa fondamentale: i confini professionali servono anche per salvare voi operatori. Assolutamente. Cioè, facendo questo lavoro nel tempo, se non abbiamo, conserviamo questi confini professionali, e quindi per esempio accogliamo continue telefonate di un connazionale anche di notte, a l'una di mattina, anche io quando si lavora a casa quando vengono a bussare di continuo, di continuo mi fa male la testa, okay, mi fa male la pancia, okay, richieste continue, okay. Quindi, e tu come stai quando in continuazione ti chiedono? Innanzitutto, il giorno dopo, invece di svegliarmi alle 8 di mattina, mi sveglio alle 9, 9 e mezza. Perché? Perché di notte vengono a bussare la mia porta, che c'è uno che si sente male, c'è uno che stanno litigando, c'è questi che fanno casino, non riesco a dormire. Secondo te è sempre vero che è così urgente intervento? Allora, all'inizio io... In senso che all'inizio ero appena cominciato a fare questo lavoro, quindi io mi sono entrato tutto a me. Disponibilità 100%. Che deve aiutare tutto. Ok? Mm-hmm. Però alla fine capisco che ci stanno quelli che vanno fuori a rompere ragazzi, qualche volta. Vengono, fanno casino, però non è quella casino. Ci sta tante volte che abbiamo chiamato l'ambulanza perché qualcuno ha sentito male. E alla fine non serve. Era necessario. Arrivano a pronto soccorso, chiamano al centro e dicono che ma perché vi chiamate ambulanza tutti i giorni? Non serve. Certo. Perché tutti quelli che vi hanno chiamato ambulanza ce l'hanno. Non ce l'hanno che cosa che hanno bisogno di ambulanza neanche. Certo. Quindi. E il problema è che. Dopo abbiamo cominciato a chiudere la porta d'ingresso. Ah, certo. Abbiamo staccato il suono della porta che non si sentiva, si sentiva quando suonavano. Certo. E l'abbiamo spiegato a tutti che quando finisco il lavoro. Sì, se uno ha bisogno proprio, che ha bisogno, deve aiutare. Ma ascolta, ma loro secondo te l'hanno smessa? O sei tu che sei cambiato? Non smetteranno mai. Sono io che sono cambiato. Perché poi cominciato? Sento toccare la porta e... Non ti signora, muovi. Non mi muovi. Non però ti lo dicono che sei cambiata. Certo, te lo rinfacciano. Anche perché da voi, mediatori alla pari, si aspettano una disponibilità maggiore. Cioè l'utente si aspetta disponibilità, non si aspetta professionalità dal mediatore culturale. No. Però il mediatore culturale è un professionista, oltre che essere un connazionale. Sì, Dora. Forse questo che è un po' difficile. Io vengo per esempio dal mondo delle risorse umane, sì, in Tunisia. Sì. Per me era facile. La gente sapevano già i confini professionali, quindi non andavano di per sé, quindi come assistente alle risorse umane avevo anche contatto con tanti persone, però subito si mette. Invece per il mediatore sembra un po' diversa. È complicato, soprattutto per i mediatori alla pari. Quindi si mettono già, iniziano subito. Quindi chi deve mantenere i confini professionali? Il mediatore. Ok, quali sono gli strumenti che vi possono aiutare a mantenere questi confini professionali? Adesso, per chi non lavora ancora in centri, è un po' difficile rispondere a questa domanda, però noi, se vi vengono risposte, ditemele. Però noi utilizziamo il nome? Ibrahim. Sì. Ibra. Sarebbe Abramo. Sì. Ibra. No, ma Ibra va bene. No, anche Abramo. Ibra va bene. Ture, Ibra, Alfred. Douglas. Difficilissimo anche per me. Ma è difficilissimo. Douglas. Ragazzi, forse ce l'ho quasi fatta. Allora, utilizziamo, tra virgolette, chi lavora già in strutture e quindi ci può dare spunti rispetto a quali possono essere gli strumenti che possiamo utilizzare per mantenere questi confini professionali e Dora per far capire all'utente, il beneficiario, che tu sei un professionista, mediatore alla pari, ma prima sei un professionista. Come ci poniamo noi dall'inizio del rapporto? Come ci poniamo noi? E per porci in un certo modo, di che cosa dobbiamo essere capaci? Di visualizzare bene quello che stiamo facendo. prima di tutto di sapere bene chi siamo noi, perché se io faccio questo lavoro perché sento il dovere, come dice Alfred, di aiutare il mio connazionale, va bene, è bellissima come motivazione, ma se io sento solo il dovere di aiutare quel connazionale, dobbiamo fare attenzione, perché potrei rispondere a tutte le chiamate, a tutte le ore, tutti i giorni, notte, mattina, e stancarmi molto, aumentare il mio stress psicofisico, tanto che a un certo punto o cambio modo o altrimenti non posso fare più questo lavoro, perché faccio male a me e faccio male all'utente. Perché nella relazione di aiuto, soprattutto nei centri di accoglienza, l'obiettivo non è l'assistenza per tutta la vita, ma è l'autonomia. Giusto, vai? Sì. Cioè, pure come esperienza personale, no? Tu sei venuta qua, non hai chiesto assistenza 24 ore su 24 tutti i giorni della tua vita, ma hai attivato un percorso verso l'autonomia. Quindi se Alfred, io sento solo il dovere di aiutare, ma non so che questo senso del dovere è una grande qualità, ma può diventare anche un limite. Perché mi attivo sempre, anche quando non è necessario, e mi stanco, stress mentale e fisico. Ibra ha detto innanzitutto non mi sveglio alle 9, mi sveglio a mezzogiorno perché sono stanchissimo. Quindi la prima lo volevo mettere fuori, allora strumenti per salvare i confini, eh? Confini, metto P, professionali, sì. Perché sennò qua tra un po' non ci andiamo. Allora, non c'è un pennarello di un altro colore? Aspettate, così è più facile. Cerchiamo un pennarello. No, non c'è. Ci ho provato per aiutarvi. Allora, a guardare me. Consapevolezza di sé, quindi conoscersi bene, noi la chiamiamo consapevolezza di sé, ok? Sì. Significa che io devo conoscere i miei limiti, le mie capacità, capacità. I miei limiti, ma una cosa importantissima, consapevolezza emotiva, sapere a me che effetto fa parlare con quell'utente. Sì. Allora, Ibra, tu per esempio, no? Al CAS ci sono tanti ragazzi, ok? Stavano quasi... Ok, per esempio, uno, quando Ibra parla con un ragazzo, si arrabbia di più, però non si può arrabbiare, non gli può urlare contro. Quando parla con un altro ragazzo, sente tristezza. Quando parla con un altro ragazzo, sente paura, per esempio. Lui o il ragazzo? Sente dalla ragazza? Lui. No, lui. Tu la senti stesso. Capito? Tu che sto dicendo? Sto dicendo una cosa che sembra facile, ma è difficilissima. Cioè, se per esempio io al mio studio, va bene, viene una persona anche italiana. Io sono italiana, viene una persona italiana che vuole essere aiutata. Ok? Mettiamo che questa persona è molto aggressiva, molto impulsiva, e io ci devo parlare, e siamo seduti di fronte, no? Io devo prima di tutto sapere che mi sto spaventando rispetto alla sua aggressività, se voglio lavorare bene. Io non gli dico, guarda, mi stai spaventando, non glielo dico, però lo devo sapere, lo devo avere chiaro. Sì, però devi saperlo anche controllare. E se non lo so, però perché Ibra, se non... questo è il problema. Se non lo sai, vuol dire che non lo sai controllare. Hai passato il tuo confine di professionale. Se io non lo so che effetto mi fa personalmente, io non posso lavorare con quella persona. Non sei sicuro. Capito? Posso fare danni. Posso dire una parola e quell'altra persona reagisce, mi dà un pugno perché è aggressiva. cioè, ti posso scrivere una... Sì, pure, dimmi. Ci stavano degli operatori nel mio, nella mia comunità dove sì. stavo. Ci stava uno un giorno che viene così, ad esempio, dice che... Vogliamo scherzare con il solito, dice che... Scusa ragazzi, oggi ho avuto una brutta prima nove, non vorrei manco parlare. È normale questa cosa? Sì. Cioè, dice che... Se tu dici parlare, questo... Con l'operatore, si dice ai ragazzi, oggi non voglio parlare, non voglio fare... Non voglio schizzare il allora, tu avuto una brutta prima. No, aspetta, ma dobbiamo capire bene questa cosa. Allora, perché tu se sei al lavoro e viene un utente beneficiario che ha bisogno di una mano, non puoi dire no, no, no, no, oggi sono arrabbiato, non lavoro. No, non ha detto così, noi come sta lavorando e viene al lavoro e di solito come scherziamo, facciamo delle cose, cassare. Ah, se sei più triste, per esempio, questo dice che oggi ho avuto una brutta giornata, non mi farà non peggiorare le cose. Ci ha detto così più non o meno fare, cioè no, allora Touré, la questione è che non sempre va detto all'altro come sto. Se però pensi che dire a un ragazzo che è troppo fa troppe richieste, troppo non rispetta i limiti, ti tocca, cioè nel senso ti vuole giocare, ti tira, se tu pensi che dire come stai oggi può aiutare lui a capire dove si deve fermare, cioè se tu utilizzi come stai, però allo scopo non per salvare te, ma per far capire a lui il limite, lo puoi usare. L'importante è che lo sai, sai preciso come stai tu e sai preciso che se glielo dici vuoi che lui impari a limitarsi. E un altro esempio è uno che... Il ragazzo ha chiesto da mangiare. Sì. E lei ha detto no, questo è, devi prendere solo così, il resto per gli altri. No, no, io voglio mangiare, ha preso la roba, ha fatto mangia allora, mangi tutto. Questa reazione si può fare pure. No. Tu hai fatto così? No, altro ragazzo. L'operatore? L'operatore, è un operatore italiano che si è comodato. Secondo te ha fatto bene o ha fatto male? Ha fatto bene, no, ha fatto male secondo me. Voi che ne pensate? Ha fatto bene o ha fatto male? Il ragazzo ha detto, no, io ho fame, devo mangiare. Quell'operatore. Eccolo qua, mangia. Quell'operatore si è arrabbiato. Si è arrabbiato. Ma aveva ragione pure. Dipende anche l'altro ragazzo come l'ha detto. Come l'ha detto. Esempio, c'è una comunità dove vado io, c'è Scafati. Come mi avvolgono i ragazzi il modo di parlare, anche io lo rispondo come mi rispondo. No, faccio capire che non lo devono permettere, cioè devono aspettare, esempio, l'orario ma di mangiare. Ma tu Bahia, lo fai con uno scopo. L'utente sì. aggredisce e basta, perché vuole mangiare, e vuole mangiare due piatti, non uno, senza rispettare che gli altri connazionali devono mangiare il piatto. Il punto è, Bahia, che tu lo rispondi, si dice qua in Italia, a tono, cioè allo stesso modo, ma perché hai uno scopo di sì, farlo certo. bloccare. Perché perciò hai detto confini di professionalità. Sì. Perché, come lui ha detto, ci stanno in centro di accoglienza. Noi quando eravamo in centro, sì. che l'abbiamo passato, noi pretendiamo che quella mediatore lavora per noi, invece quella mediatore è professionale nel suo lavoro. Esatto. Quindi tu devi venire incontro a lui, non è sempre che quella mediatore deve venire incontro a te. Assolutamente. È umano, sì. vivo come te, quindi ha sue emozioni come tu hai sue tue emozioni. Assolutamente sì. Puoi venire un giorno che non lo troverai in un bel modo, sì. quindi sai quella, appena che tu sei arrivata ti dici che guarda, io non mi meglio che non mi spingi molto perché oggi non sei in un buon come ha sì, spiegato tu buon umore. Tu come umano sei quella persona non hai mai fatto così, devi capire che oggi non è un buon giorno. Sei quel mediatore, un mediatore che spesso no, tu non devi fare così perché o si reagisci in un certo modo, quella non è capace per fare il lavoro. Che vuole fare vedere la sua auto. Le cose si fa, si può capitare, sì. sì. Però non è che si può ripetere la stessa cosa, si ripete. Vuol dire che non è capace di fare certo. quel lavoro. Certo. Perché quel lavoro la porta in stress che devi cominciare a sgridare le persone, a parlare in modo che non devi che parlare. Non sempre funziona. Un mediatore non è un rivale, però non è un amico pure. Esattamente. questo è il fatto. Siamo d'accordo. Okay. Questo era il discorso importante. E che loro, gli utenti, non è che non capiscono, ma fa comodo non fare finta di non capire. Commissione. Come hai loro fanno? Non lo ci provano. Se noi mettiamo lo stop, che è il confine professionale, allora una volta, due, tre, un po' imparano a modulare le richieste. Io non lo so se la distanza deve fatto essere qualche tra richiedente, vabbè, come sì, operatore, penso. Sì. Sempre deve sì essere qualche distanza rispetto. Ho soltanto una domanda, sì, posso? Sì. Ma quando usiamo, diciamo, i metodi per proteggere i confini professionali, sì, sì, mettiamo da parte la nostra umanità. No. Hai ragione. Hai ragione. Gli è venuto il dubbio, certo. Lì in quel momento dobbiamo usare le regole, come diciamo ci sono delle regole per poter svolgere la parola a qualcuno, per proteggersi, e allora in quel momento non vedo più che ci sta l'umanità. Allora aspetta, è una cosa Dallas che non capisco, sì. Dallas. Dopo torniamo qua. Non so come dobbiamo fare, però. Non so come devo fare, però. Vediamo. Non lo voglio strappare perché dopo ci serve. Allora. Allora, ho scritto dovere di aiutare, quello che sentiva Alfred, piacere ad aiutare, cioè a me piace, dice Bahia, aiutare gli altri per l'integrazione, ok? Quindi qua prevale il dovere, io devo, qua il piacere, no? Qua le... E qui ci sono le competenze, no? Che tu dicevi, se io sono professionale poi perdo l'umanità, cioè il piacere di aiutare o la capacità di aiutare per predisposizioni mie personali. E io ti dico, Douglas, che queste tre cose devono per forza andare insieme, altrimenti non c'è relazione d'aiuto. Sì, perché alcuni vuole, e quando c'è prevalenza, se prevale questo, o solo questo, o solo questo, non siamo in una relazione di aiuto. È difficile, Bahia? Vedo che... No, sto pensando a quello che ha detto, perché c'è che io qualche volta, se non usi le competenze e metti da parte l'umanità, non aiutare l'altro, perché l'altro no sempre chiede di cose anche se non fanno danno a lui. Allora, cioè, in quel punto devo io pensare e devo usare la mia competenza, sì, per farlo capire che quello non è vero, quello che vuole, sì, o quello che chiede. No, ma non è che metti da parte la mia umanità. No, campo lì sopra blocchiamo. Grazie Tourette, tu sei pure più alto di me. C'è sempre il centro di accoglienza, vengono sì, sempre a chiedere le medicine, tipo la medicina o chi. Grazie Tourette. E ti vengono a chiedere sempre, tu continui a dare la medicina, però non sei... Perché sei paziente, perché che è una delle caratteristiche personali che prima avete nominato. Quindi continui a dare la medicina, fino a un certo punto... Ti vengono a chiedere, tu, ma come mai che queste medicine finiscono sempre prima? Sì. Quindi là devi usare la tua competenza, perché quella persona che chiede la medicina occhi sempre, non è che ha bisogno di occhi sempre, tu continui a dare occhi sempre, le sta facendo male. C'è ancora il dubbio, sì, ti faccio un esempio. Per tutto ciò che ho sentito da loro, come si comportavano i ragazzi, tutto, allora viene... I ragazzi dicono che sei cattivo, questo mediatore è cattivo, sì. Dove viene questa cattiveria? Perché ha fatto uscire l'umanità per poter proteggere? No, non è così. No, sai, ha usato un tono alto, non lo so. Ma però no, c'è una guarda Douglas, se tu lavori come mediatore e non senti che sei bravo e sei cattivo, meglio che non lo fai, perché la sentirai. Ci sarà alcune persone che direi che sei una brava persona e ci sarà quelle che direi che sei cattivo. Ma no, ma per quelle che ti direi che sei cattivo, alla fine del giornata ti diranno qualche parte, ti diranno che brava. Allora, anche dallo stesso. L'operatore non è bravo, l'operatore uguale mediatore in questo caso, non è bravo o cattivo, è professionale o non professionale. O non professionale. Dopodiché è l'utente che, se tu non lo accontenti e lui vuole tante cose, dice che sei cattivo o dice che sei buono, ma quella è un'altra cosa. Quello è l'utente che vuole approfittare dicendoti che sei cattivo perché spera che poi lo aiuterai come vuole lui. Ma dallo stesso anche puoi sentire che oggi sei bravo, domani sei cattivo. Perché? Perché oggi l'hai detto, hai fatto tutto quello che vuole, domani hai rifiutato una cosa. Posso dare un piccolo esempio che non c'entra con la mediazione culturale, ma c'entra con il mio lavoro prima, che è l'assistenza del discorso umano. Allora, chiaro? No, no, cioè perché, perché scusa, perché lo vedo un po' perplesso. Mediatore, perché un po' di... vi voglio, ti faccio parlare subito, vi voglio far capire, no? In questo momento noi siamo in una relazione, no? Io stavo seguendo Douglas, stavo seguendo Dora, ma mi sono accorta che Liam era rimasto a un pezzetto prima, forse. E se io non recupero Liam, cioè... se non me lo vado a prendere dove è rimasto al pezzetto di prima, lui non segue il resto. Sì, sì, sì. Quindi un attimo su, dimmi via. No, perché il mediatore tra compito personale, come un punto di collegamento, come un ponte. Esatto. Entrambi i due parti, esatto. Senza dare pregiudizio mio, mio giudizio personale. Perfetto. Che se, andiamo in fondo, allora come a dire cattivo, tu sei così come che sono detto loro, se io devo stare in un punto di collocamento per entrambi andare per due, esatto, parti, esatto, per avere un loro rapporto e per contratto, per questo chiama mediatore, per esatto, chiedono per, ente chiedono mediatore per facilitare il loro paziente, certo, per capire bene, esatto. Se non andate, non so, per giudizio personale, là è una cosa complicata, dopodiché certo, chiaro, è così. Però, Dora. Lo sai che se vai alla polizia... dopo Dora, dopo ci sei tu. Dora, scusa. No, però mi piace, grazie che collaborate con me, così vi restano... magari non diciamo tante cose teoriche, però vi restano più input, ok? Sì, sì. Se vai alla commissione di Salerno, non lo so se magari qualcuno ha lavorato alla commissione qua, sì, come mediatore alla commissione di Salerno, non puoi parlare con quelli che sono venuti in commissione, anche se nessuno ha lavorato alla commissione, alcuni ci sono andati in commissione lì, ma quella tanti proprio volte, sei un tanti volte le persone escono, è un traduttore, no, non, è, cioè non è un mediatore, no, perché alcune persone escono di là, non pensano che quella persona sta lavorando lì, escono e dicono che quella mediatore non è buono. Giusto, perché quel mediatore quando è entrato come suo professionale non si deveva parlare con quello, no, quindi c'è il suo posto dove si deve non fermare. Non si può, veramente, in quel momento davanti a commissione devono, dobbiamo parlare, di quello che stai parlando. Perché là non è una mediazione, no, là che cosa hai usato? Hai usato tua competenza. Ma linguistica, non relazionale, no, allora quando tu entri, quella è traduzione, hai utilizzato competenza linguistica, ok, competenza linguistica, ma quando facciamo il mediatore non basta la competenza linguistica, è necessaria, ovvio, perché, ma il mediatore alla pari la conosce, la mediatore non è un interprete. No, il mediatore culturale, oltre a sapere la lingua, ok, devi avere tante altre capacità e competenze professionali, tra cui capacità di ascolto attivo, capacità di comprendere quali sono i conflitti tra l'utente e il contesto attuale, ma anche quali conflitti si porta dietro dal contesto di provenienza quella persona, se è spaventata, se sta a suo agio, se non lo so, è arrabbiata, tutto questo deve saper fare un mediatore, cioè deve guardare e deve sapere un mediatore. Sì, però è più complesso. Perché come sempre il territoriale solamente traduzioni che fa chi viene a chiedere asilo. È molto più complesso. Senza... E poi vi viene chiesto, questa è un'altra. Douglas, su questa cosa più o meno ci sei? Sì, ci sono. A la voi mediatori. Ah, Dora, no, sì, ma... finisco questa cosa, non lo faccio fare più. Scusami, perché ci sono tanti stimoli, quindi li focalizziamo un attimo. Sì, sì. Allora, importante. Al mediatore viene chiesto di sapere, saper fare, saper essere. Chi l'ha detto? Pure. Bravo. Tutto questo è un bel lavoraccio che dobbiamo fare. Sapere, no? Sapere la lingua, sapere le storie di vita la personali, cultura, la cultura d'origine, abitudini, azioni. Perfetto. Pregiudizi, idee con le quali loro vengono. Sguardo, tutto. Esatto. Saper fare, cioè saper utilizzare tecniche, competenze, modi per far capire delle cose o per attivare il processo verso l'autonomia di questi utenti, no? Scusa, mi scusi. Tu l'hai detto questo, dici tu, ci sta, eh? Dici tu, va bene tu. Dimmi tu, va bene. Dove stai scrivendo? Sta sullo slide, avremo sul WhatsApp, eh? Vuoi le slide? No, ok. Che ti piace, le vuoi tenere? Magari le posso, preparare, ve le mando. Per favore, fallo, è molto interessante. Vabbè. Foto. Può pure le foto. Possiamo pure fare le foto alla fine. Sì. Sapere, saper fare e saper essere. Saper essere era quello che dicevamo prima, cioè consapevolezza di sé, consapevolezza dei propri limiti professionali e quindi saper stare nella relazione con l'utente conservando il doppio confine. Saper fare e saper essere. Si può imparare a si può imparare a essere capaci nelle tre sfere. Va bene? Si può con i corsi specifici, con l'esperienza in equip, ok? Io vorrei sapere, sì, tra due operatori, sì, uno che fa rispettare, è rigido sulle regole della casa e uno che a volte cioè, si agevola, dice ok va bene, ogni tanto chi è bravo tra loro due? Perché abbiamo un operatore che quando viene dice oh, all'11 si deve chiudere wifi e televisione e tutto, quello che dice va bene oggi però non dovete dire contesto, se tu mi fai questa domanda vuol dire che stiamo lavorando per esempio in uno SPRAR dove c'è Touré che è rigido, no, alle 8 preciso si chiude la dispensa, non si mangia, non lo so, e Ibra che invece dice vabbè sono le 8:05, c'hai fame, vabbè mangia. Va bene, l'ho passato, ho fatto pure così. Allora il più bravo. Chi è che diciamo il nostro lavoro, che comodamente dobbiamo adottare noi? Che ne pensate voi di questa domanda di Touré? Poi dico come la penso io. Ma dove? Io penso che né troppo rigido, nel senso, e neanche né troppo. Ma quando si può essere non troppo rigidi secondo voi? Quando vengono rispettate quello che dice. No, io quando loro posso esempio farli fare una cosa che loro vogliono piacere anche se non entra nelle regole, però esempio quando io dico che se deve fare questa allora mi stanno a sentire, posso anche farlo. Sta dicendo Dalia. Se l'utente sta con me da 7 mesi e so che è un utente che rispetta le regole, cioè che alle 8 non chiede più cibo perché la dispensa è chiusa, ok? Se lo conosco bene e so bene che quella persona rispetta i limiti, ci può essere una situazione nella quale io alle 8:10 do il pane, lo stesso. Sì. Ma se lavoro in equip mi devo preoccupare che il mio essere più flessibile, 8 e 10, deve essere detto agli altri operatori, perché altrimenti gli utenti sai che fanno? Bahia è brava perché alle 8 e 10 mi ha dato il pane. Touré sì, è cattivo perché alle 8, perché alle 8 preciso ha chiuso la dispensa. Quindi professionalmente quella che... Questo mi sono trovata così i primi tempi nel lavoro, perché sono arrivata, era un caos nell'amministrazione, persone che arrivavano a quell'ora a chiedere documenti, però non, per 500 lavoratori non era facile gestire tutte le persone per dire sempre sì, perché prima c'era un caos totale che... All'inizio, quando io ho iniziato a far rispettare le regole, ero la cattiva. Hanno capito dopo anni, che non ero cattiva, ma si dovevano fare le cose. Certo, e l'equipe deve essere d'accordo. L'equipe significa mediatore alla pari, operatore, OS, ci sta più coordinatore, tutti quelli che sono un'equipe. Educatore, esatto. E nella situazione dove i ragazzi non hanno mai studiato, non hanno mai avuto, diciamo, una educazione europea. Sì, quindi ci sono quelli che sono cresciuti in villaggio, sì, hanno visto la televisione, i genitori che non sanno niente della, diciamo, delle regole della vita e che vengono qui. Come fare? Allora, questa è una bella domanda. Noi quando abbiamo aperto il centro, qua c'è proprio il ruolo del mediatore che deve capire che proprio c'è una cultura. Quando cultura accogliamo beneficiari o utenti nuovi, in questo caso in uno SPRAR, il mediatore è super presente. Perché? Perché deve far capire a entrambe le parti qual è il punto d'incontro. Noi prima facevamo ora di tipo di le ore di ora di mangiare, sì, andavamo a chiamare tutti quanti e le ricordiamo che questa all'inizio, ora all'inizio quando questa arriva, ora si deve mangiare da questa ora dobbiamo andare a se mangiare. Viene uno da un villaggio che all'inizio non è abituato, alle due giusto non si mangia, dopo le due non si mangia, però noi andavamo fino alle tre per capire loro e vengo incontro. Ogni volta gli dico guarda ragazzi dovete venire prima perché questi ce l'hanno questa ora di lavoro, devono andare via. L'abbiamo fatto per mesi, finché hanno cominciato a capire. Sì, per mesi, ma anche non puoi, neanche quelle, le regole non vengono messe neanche una volta, perché non le accettano. No, non le accettano. Perché anche loro hanno un modo di vivere. Allora, c'è regole, sì, veniamo a farle, però ad esempio, non è che iniziamo dall'inizio, quando devi andare alle 8, alle 9, subito. Alle 5, cioè, ok? Non parlando di quell'esempio, dell'esempio dove devono capire qual è il lavoro del mediatore. Perché ci sono quelli che vengono che non sanno, sì, proprio che dice lui, no? Proprio se viene la presenza un utente da un villaggio, sì, ok? E non ha proprio idea che esiste un mediatore che lo può aiutare. Come si fa? Diciamo. Ma... E mediatore che deve farla capire. In quel caso è sempre il mediatore che attiva la relazione. Ok? Questo è un altro punto fondamentale, però io direi di Dire che sei più alto. Io sono un po' bassina. Vai. Dopo dobbiamo tornare agli strumenti per mantenere i confini professionali nella relazione. Ok, perfetto. Allora, stavamo dicendo. Allora, operatore, scrivo, operatore significa mediatore, educatore, OS, ok? Utente, lo chiamate voi? Allora, questa è una freccia, mettiamo che questa è una freccia. Mediatore. Okay. In quale direzione va? la relazione d'aiuto. Come la devo fare la freccia? Così? Sì. Così? Tutti secondo due. Voi? Tutti e due. No, sì. Meglio trovare in centro. Vediamo, diverse opzioni. Tu dici no, qual è la direzione? Alla relazione. Da sinistra d'aiuto. A destra. Cioè, può essere in entrambi i senso, può essere lo scambio, può essere. Tu dici così. Tutti e due. Può essere tutti e due. All'inizio io credo operatore era solo utente di più. All'inizio, si dice Bahia. Solo quello. Nella fase di accoglienza. Però io sono d'accordo. Poi che succede? C'è qualcuno che pensa che la freccia va all'inverso, per esempio? Solo all'inverso, cioè utente, operatore? Io direi scambio. Scambio. No, nessuno dice che la freccia va solo in questa direzione, giusto? All'inizio l'operatore deve andare, ma alla fine utente. Perché se loro non vanno, come lo patrono può capire? Quindi è così. Ok, sì. Il flusso di cose è bidirezionale, cioè va in tutte e due le direzioni. Sì. E l'arricchimento è solo per l'utente, secondo voi? No, tutte e due. L'arricchimento io, cioè, nella mia esperienza ogni giorno che incontro uno, cioè, acquisisco di nuove idee, di nuove cose, nuove opinioni, cambio anche le mie opinioni in continuazione. E vi posso fare un'altra domanda? La relazione, da chi è gestita? Operatore. Mediatore. Mediatore, operatore, ok. E da chi viene costruita? Costruire. Per me è operatore prima. Siamo mediatore costruire. Perché anche il modo come tu da entrambi. C'è una co-costruzione. Cioè, se io mi avvicino a te, Liam, ma tu non ti vuoi avvicinare a me. Cioè, non vuoi essere capito, non vuoi essere aiutato. Io da sola che faccio? Niente. In qualsiasi interazione ci vuole da poco. Quindi c'è una co-costruzione della relazione. La responsabilità della relazione a chi appartiene? Operatore. Solo? No. Tutti e due. Però il mediatore ha un percentuale grande, cioè l'operatore, lui che può anche dà l'opportunità all'utente di avvicinarlo o anche di allontanarlo. Se utilizza la professionalità, sì, perché c'è quel momento e le capacità relazionali. Dopo la fase di accoglienza viene, sì, è vero che inizia l'interazione, però c'è un grande ruolo dell'operatore. All'inizio, nell'attivare la relazione. Sì. Quindi l'operatore, il mediatore, ha una grande responsabilità nel momento iniziale, attivare la relazione, ma la costruzione della relazione viene dopo. Mm. Il mediatore l'attiva, proprio la costruiamo di volta in volta insieme. Mm? Ti trovi, Bahia? Sì, sì, sì. Su che cosa non ti... No, non è su che cosa, però c'è l'operatore, anche lui c'è, può acquisire quella persona, sarebbe attirare. Li attira verso di lui o anche di allontanare all'inizio. Assolutamente sì, assolutamente sì. Perché però, devi andare, non è che devi fare sempre anche l'operatore professionale, perché a quel momento all'inizio devi andare anche incontro. E ma cioè, Bahia, ma sono d'accordo, ma perché secondo te la capacità relazionale o la capacità empatica o la capacità comunicativa, di ascolto attivo, di accoglienza, di far sentire l'altro visto, non è una competenza? Sì, sì. No, professionale. Sì. Sì, certo. La puoi avere come predisposizione innata, la capacità di ascoltare, la pazienza nell'ascoltare, ma si può migliorare, affinare, cioè si può rendere più professionale ancora. Non sono due cose divise. No, anzi, visto che tu hai questa capacità anche di comprendere come sta l'altro, perché riesci a farlo sentire a suo agio, riesci ad attivare una relazione. No, ma hai imparato tanto. Sono diventata anche un po' cattiva, perché prima non vedi, c'era. Vedi, cioè, vedete? È la verità. Cattiva. No, che vuol dire su cattiva? Poco professionale, forse, vuole dire, Bahia. No, prima veramente ero, Bahia. Cioè, non riuscivo a dire no. Non esiste il no. Bahia, ma da quando dici no? Sì, questo su questo. Oh, Bahia, ma da quando dici qualche no, stai meglio o stai peggio? Ultimamente ho bisogno di dire no. Stai meglio, perché non ce la facevo più. Cioè, hai messo i confini personali, li hai fatti diventare più netti e quelli professionali più forti. No, ma come esseri umani, lei è altruista a livello esagerato. E grazie, vuole essere sempre presente a tutti gli eventi, tutte le cose. Ma poi il risultato? Ma perché lo vedo una mancanza di rispetto, non è che lo vedo veramente che non è. Ma fisicamente anche un essere umano non è capace di essere tutto e di essere. Non è possibile. Quando a un certo punto. Sto dicendo. Poi vabbè, quindi co-costruzione e corresponsabilità. Vi chiedo una cosa, anzi vi faccio questo esempio, no? Per capire bene questa questione co-costruzione e corresponsabilità. Dopo facciamo una pausa, Già alle 11 lo facciamo sempre la pausa. Dopo vi faccio fare una pausa perché abbiamo detto tante cose e poi riprendiamo dai metodi per mantenere i confini professionali. Va, non ce la fai più. Va bene, vai pure. Vai. Vi faccio un esempio per farvi capire un po' questa storia della relazione. Immaginate una sarta che deve cucire un vestito, ok? Allora io vado dalla sarta e dico voglio un vestito e le dico come lo voglio. A un certo punto però questa sarta sa che se deve fare il vestito come lo voglio io, verrà male, oppure verrà troppo gonfio, oppure verrà troppo sproporzionato, oppure. Quindi la sarta, in questo caso l'operatore, a un certo punto in questa relazione può avere un peso di responsabilità maggiore, certo. Ok? Perché ha presente bene il vestito finale, cioè l'obiettivo finale che vuole raggiungere, e mi dirà con la sua competenza: no, guarda, non si può fare come vuoi tu, dobbiamo fare in questo modo, ma ci dobbiamo mettere d'accordo io e te. All'inizio la sarta non lo fa a priori, senza dirmi nulla. Si accorda con me, dice: guarda, quello che vuoi tu non si può fare, lo dobbiamo fare in quest'altro modo e raggiungiamo il vestito che è di questo tipo. Che voglio dire? Quando bisogna il progetto rispetto all'autonomia di un utente, di un beneficiario, va condiviso con l'utente stesso. Cioè noi non possiamo immaginare che l'operatore dall'alto dica: tu oggi fai questo, domani fai quello, dopodomani fai quell'altro, perché l'obiettivo è la tua autonomia. No, non funziona così. Io e l'utente condividiamo il progetto verso l'autonomia. Certo che se l'utente vuole fare qualcosa che non favorisce l'autonomia in questo contesto, io mediatore, come la sarta, lo devo fermare e dire: no, aspetta, Così non andiamo da nessuna parte, ci dobbiamo mettere d'accordo, puoi fare così e puoi fare così. Quindi condivisione. Ok? Quindi nella relazione non c'è operatore sopra e utente sotto, no? Ma lo schema giusto è questo, operatore, utente, ok? Quello che dicevamo prima. Facendo solo la doppia ancora, ragazzi. Adesso le comunità accolgono anche in prevalenza. Sì, però peggio, anche io sto lavorando in questa comunità di scafati, peggio lavorare con, è meglio lavorare con stranieri con chi con italiani. È dura. Sì, è dura. Cominciato là con i minori, avevamo una comunità con bambini piccoli, 2-3 anni, 4 anni, che venivano tolti ai genitori per diverse motivazioni. Abusi, familiare, problemi a casa. Cose pesanti. Immagino che poi, forse lei ha detto, è più difficile lavorare con loro perché quelle situazioni sono state tolte ai genitori. Invece, per esempio, chi è venuto col barcone ha fatto anche essendo un minore, ha fatto quella scelta di andare via. Per, quindi anche la situazione immagino anche che diversa. Anche alcune volte penso che la scelta sia un po' obbligata, non credo che tutti. Però sì, sono molti, cioè, sono dure anche di carattere, perché loro si sentono anche. Cioè le persone che si sentono minore, allora hanno il diritto di insultare, di fare, tu non la devi toccare perché loro è minore, hai capito? Cioè, è proprio complicato. Non è facile. Poi ho lavorato dopo con gli adolescenti, quindi un'altra comunità, 14, 15, 16 anni, peggio, si picchiavano, peggio. Anche il penale, allora il penale. E poi il penale, adesso le comunità stanno accreditandosi per il penale. Terribile. Ancora peggio. Penale minore, cioè maggiore è già un'altra cosa, ma minori sono certo. Penale che ragazzi che per esempio hanno commesso un reato, mm-hmm. e vengono portati in comunità, che devono andare in galera, però non li possono portare in galera, sono minorenni, dopo vanno a non stare, cioè penali devono stare solo in comunità, dopo aver compiuto ciò che ritornano vanno in prigione, in carcere, dipende. No, le fanno mai andare in genere, carcere. No, finiscono in comunità. Percorso, cioè perché fino a, c'è esempio quella anche fino a 21 anni si può prolungare, in genere le comunità sono fino ai 18, però poi si può prolungare fino ai 21 lo stare in comunità, se si iscrive al tribunale si può fare così. E oggi nelle comunità dove ci lavora un supervisore abbiamo molti ragazzi invece immigrati, gambiani. E stavi dicendo che la tua faccia non ti aiuta. Non è molto bella, no? Mi dicono che non sembro molto rigida. Mi dicono. No, sì, no, infatti. Va bene. A parte i miei figli, però qualche volta che mi dicono mamma sei cattiva quando dovevo. Sì, ma le figli. Va bene. Allora, dove stavamo? Chi stava parlando? Quando abbiamo Lian. No. Nihal. Ah, Nihal. Vabbè, ti ho ribattezzato. Nihal, va bene. Dove stavamo? Chi mi aiuta? Prima di fermare. La relazione. Operatore utente. Ok. Che quindi alcune volte d'ora. Voleva no, fare l'esempio d'ora. Non voleva fare. Le abbiamo fatto perdere la pazienza, appunto. No, stavamo parlando del fatto che, con l'esempio della sarta, che alcune volte l'operatore, come dire, deve decidere, deve essere consapevole di qual è la direzione da dare a quella relazione, ma deve sempre coinvolgere l'utente, quindi decidere con lui come raggiungere quel determinato obiettivo. Perché la relazione d'aiuto, stavamo dicendo prima, non deve essere assistenziale soltanto, ma deve essere di crescita. Mi verrebbe, prima di continuare qua, di farvi quest'altro scherzo. Giulio ha levato tutto lo scotch. Aspettate. Facciamo così, li mettiamo tutti insieme. grazie. Allora, io operatore e tu utente. Questo è lo spazio relazionale, cioè lo spazio della relazione. Allora, i due attori della relazione, ok? Lo spazio relazionale. Allora, io operatore, abbiamo detto, da solo ho una mia identità, ok? Una mia identità che dipende da... Oh, vi faccio questo schema, ve lo spiego, eh? Guardate che com'è complesso, no? Allora, io operatore, che cosa stavamo dicendo? Che io operatore, quando lavoro nella relazione, ci metto RA, cioè razionalità, significa pensiero, ok? CO, utilizzo il mio corpo per comunicare. Voi dite come? Comunicazione non verbale, giusto? Sì, quella sarebbe comunicazione. CO? No, corpo, il mio corpo, utilizzato come strumento nella relazione. Cioè, se parlavamo prima, no, di rassicurare un utente che va in ospedale, no? Voi pensate che una persona molto molto spaventata ascolta bene tutto quello che gli diciamo? No, o è talmente agitata che delle volte non riesce a sentire quello che tu gli dici, no? Tu magari gli dici, Ibra, tu gli dirai, per esempio, non ti preoccupare, qua in Italia il prelievo funziona così, stati tranquilla, adesso dico al medico che sei spaventato, andiamo un po' più piano, eccetera, eccetera, eccetera. Ma una persona che sta molto agitata, spesso non sente tutto quello che gli diciamo, ok? E quindi utilizziamo anche il nostro corpo per comunicare. Cioè, se io vi guardo con uno sguardo di comprensione, voi vi sentite più a vostro agio, no? Immaginate che stamattina, quando appena siamo arrivati, io cominciavo a fissare ognuno così. Voi come sareste stati? Che sensazione avreste avuto? Cosa? Se stamattina, quando siamo arrivati, non ci conoscevamo, voi tra di voi sì, io con voi no, cominciavo a fare così, voi come sareste stati? Se invece, io invece ho preferito cominciare, chi sono io, chi siete voi, guardarvi un po', cominciare a creare un clima relazionale che... sembra abbia favorito il vostro mettervi in gioco, cioè avete portato tanti esempi, mi state chiedendo delle cose e alla fine ci riserviamo anche una mezz'oretta per raccogliere situazioni proprio concrete in cui vi siete trovati in difficoltà o cose che mi volete chiedere rispetto alla gestione concreta di utenti, di colleghi, come volete. Vabbè, magari portiamo degli esempi pratici. Quindi, uso il mio pensiero, razionalità. Uso il mio corpo nella relazione, ma vi ripeto, come comunicazione anche non verbale, sono le emozioni. Le usiamo o non le usiamo nella relazione? Tanto. Sì. Le usiamo tanto e ne dobbiamo essere consapevoli, ok? Perché se un utente ci fa particolarmente tristezza, tanto da attivare in noi il forte senso del dovere di aiutarlo, rischiamo di essere assistenzialisti, cioè di stargli appresso appresso, che ti serve, che vuoi, e va bene, ti aiuto, e faccio, faccio. Alla fine, però, non raggiungiamo l'obiettivo, non lo aiutiamo a raggiungere l'obiettivo dell'autonomia. Quindi, tra me e l'utente ci deve essere la giusta distanza. Vicinanza, sì, ma anche la giusta distanza. Io e l'utente non ci dobbiamo confondere. Anche se abbiamo la stessa nazionalità, anche se io e te abbiamo una storia simile, perché veniamo dallo stesso posto, siamo due persone diverse. E insieme siamo un'altra cosa, un'altra identità, un'identità in cambiamento. La storia, quando il mediatore in genere, no? Raccoglie la storia di vita personale anche, no? degli utenti, dei beneficiari, sa benissimo che quella storia di vita sì, è fatta del passato, ma è anche una storia di vita che si adatta continuamente rispetto all'inserimento che c'è sul territorio italiano, in questo caso, no? Quindi si deve, è una storia di vita personale che è sempre in cambiamento. E sì. E anche quindi il vostro pensiero, le vostre reazioni rispetto a quell'utente sono in cambiamento. Però se né io né l'utente governiamo, cioè sappiamo gestire questo continuo cambiamento, dove andiamo? C'è confusione, non c'è chiarezza rispetto a dove andare. Quindi le emozioni. E poi c'è FA. In FA noi ci mettiamo tradotte fantasie, quindi ricordi, sogni che fa un operatore, sogni che fa un immigrato, immagini che c'ha relativamente a un evento traumatico della sua storia di vita, ok? Nel caso dell'utente. Ovviamente, così come noi abbiamo tutti questi elementi che ci costituiscono, c'è pure l'utente. Quindi immaginate la complessità, no? L'insieme di tutte queste cose, no? Dà l'identità di quell'operatore nello specifico. Tutto questo dà l'identità a quell'utente nello specifico. Adesso ci dobbiamo aggiungere altre tre sfere. Vediamo dove le dobbiamo mettere. Allora, nella relazione d'aiuto c'è la reciprocità, eccetera, eccetera, ma qual è l'atteggiamento che l'operatore ha verso il beneficiario, l'utente? Bambino? Cioè l'operatore pensa, è egocentrico e pensa alla soddisfazione dei suoi bisogni personali, quindi lo aiuto perché il mio bisogno è di sentirmi utile, di sentirmi, di poterlo salvare, quell'utente. È genitoriale, cioè io lo devo fare per il suo bene, ma gli possiamo imporre delle cose a quel beneficiario, a quell'utente. O è adulto, cioè l'operatore assume una posizione di adulto che media tra i bisogni dell'operatore e i bisogni dell'utente, che favorisce la condivisione di obiettivi tra i due affinché si abbia il percorso di crescita dell'utente. È un po' complicato, un po' difficile. No. Siamo acquisendo. Cioè, vi faccio un esempio di una mamma e un bambino, ok? La mamma accarezza continuamente il bambino per il suo bisogno di essere accarezzata. In questo caso è infantile. Maria, tu hai figli, Dora, tu hai figli, no? Tu no ancora, giusto? Se accarezziamo continuamente un bambino, facciamo bene o facciamo male? No, continuamente. Continuamente, perché io, mamma, ho il bisogno di affetto. No, no, no. non gli facciamo capire niente, quello no, no. Cioè non gli facciamo capire qual è il momento della regola, non gli facciamo capire qual è il momento dell'affetto, lo confondiamo ancora di più. Certo. Genitoriale? No, questa cosa non si fa e basta, di posizione. Manco questo. È buono? No. Oh, alcune volte ci vuole. Sì. Ah, verità. Io c'ho uno che sto facendo con lui solo genitoriale. Però perché hai uno scopo. Non le va per niente, cioè qualsiasi cose. E poi c'è l'adulto, no? Che sa mediare tra i bisogni propri di mamma e quelli del bambino. Ma dipende anche del carattere. E dipende anche dal carattere. Del carattere, cioè figlio tu anche cambia l'atteggiamento. Certo, certo. Dipende dall'età pure. Questo per dire però che noi, però, questo nella vita privata, ma nella vita lavorativa, professionale, noi in quale posizione ci dobbiamo mettere rispetto all'utente? Questa. Adulto. Questo non significa che dobbiamo essere perfetti. Perché poi dalla lezione di oggi qualcuno potrebbe dire mamma mia, ma qua bisogna essere perfetti, bisogna saper fare, saper essere genitori. No, non è una questione di perfezione, è una questione di consapevolezza, cioè sapere qual è il mio limite. Poi è chiaro che non posso essere perfetto come operatore, come genitore, come persona in tutte le situazioni. E per questo che spesso lavorare in equipe in questi settori è una grande risorsa, perché c'è condivisione, c'è riflessione insieme, no? Ok, devo ripetere qualcosa qui? Tu re, sei rimasto un attimo difficile? Che dubbio c'hai? Vuoi essere spiegato di nuovo? Qualcosa? Alfred? Douglas? Non ho sentito, R-A-C-O R-A, pensiero, razionalità. C-O è il corpo. Corpo. Emozione. Emozione. Ma il corpo anche a carezzare l'utente. Comunicazione non verbale. Cioè uno certo, deve fare un'operazione all'ospedale, fai tranquillo, tranquillo, andrà tutto bene. Bravo. Pensi che quando uno si deve fare un intervento in ospedale, non so se qualcuno l'ha mai vissuto, noi poi parti per forza. Tu sei agitato, riesci ad ascoltare quello che ti dicono gli altri? No. Alcune volte se uno ti dice ma non ti preoccupare, faccio peggio, uno si agita ancora di più. Quello che dici tu è pure una pacca sulla spalla, no? Dice, però immagino che anche il linguaggio corporeo dipende anche della persona. Ci sono delle persone che quando sono agitate non vogliono proprio essere manco toccate. Esatto. Infatti basta solo una anche una presenza, manco una parola. Dipende poi dalle persone. E ce l'abbiamo una persona così. Ma anche la presenza è corpo. Anche se io ti sono vicina, non ti tocco, non ti parlo, è presenza, è corpo. No? Ma scusa, lui può spiegare perché lui è così. Che senso? Quando si arrabbia, si fa troppo. Non deve toccare perché bisogna lasciarlo stare. Bisogna lasciarlo stare, quindi magari si può spezzare. Dove è affetto? Perché tu è proprio la sua giornata. Cose sono lì. Vabbè, ma cosa c'è di male che Alfred è così? L'importante è che lui lo sa, perché se che loro lo sanno come fare guai e che voi pure lo sappiate, loro, in modo da rispettare i tempi, no? Anche scegliere i tempi giusti per dire qualcosa all'utente. A meno che non sei in una situazione in cui è necessario al momento dire delle cose. Ovviamente sì, Dora, sono d'accordo con te, tant'è che il corpo ce l'ho messo pure da quest'altra parte, capito? L'emotività ce l'ho messa pure da quest'altra parte. Quello che deve essere chiaro è che l'operatore dovrebbe essere sempre in una posizione in relazione all'utente. Non è sempre facile. Perché molte volte l'esempio di prima, no? Di chi trasgredisce le regole, quale atteggiamento ci attiva? Questo. No, ti ho detto che la regola è, non si fa. E anche quello non funziona per certe persone ancora. E non funziona. Peggio. È peggio ancora. Esatto. Rifiutano magari la. Sì. Io penso che voi mediatori ancora. Proprio per eccellenza debba prevalere questo a livello professionale, sì. Poi a casa vabbè, sì, no. Ma questo in generale per tutti, anche per me, eh. Ok, potrei fare così, la bidirezionalità della relazione, eh? Da qua nasce, devi andare tu lì. Ciao. Devi firmare. Penso che ho già firmato. Pure l'uscita? Questa è solo. L'uscita deve fare. Devi firmare pure l'uscita. Dove sta? Tu re. E dove stai? Dietro? Stai dietro? Hanno cambiato l'altro. Hanno cambiato il foglio. Ah, ok. Ci sta l'ingresso e l'uscita qua. Sì, sì. Così piacere, no? Ciao Turi, alla prossima, buon lavoro, ciao. Che ore sono? Mezzogiorno. Noi fino a 1:30, ho detto a Giulio che c'erano molte persone che andavano via, proviamo a restare fino a no, chi può, loro mi sembra che pure devono andare via fra un po'. E io mezz'ora, infatti mi ricordavo. Vabbè. Da questa relazione nascono nuove identità in relazione, cioè, cosa voglio dire? Che io, quando sto da solo, ho una mia identità, che l'utente, quando sta da solo, ha una sua identità. Ma quando siamo insieme, io e te, necessariamente siamo nuove identità. Chiaro? Sì. Cioè, io se sto in relazione con quell'utente, non è che resto completamente indifferente rispetto a quello che mi sta raccontando l'utente, rispetto a quello che devo tradurre, rispetto a quello che devo far capire dall'altra parte, no? Anche io in quel momento subisco dei cambiamenti che possono essere corporei, che possono essere emotivi, che si attivano in quella relazione, in quel momento relazionale specifico, e che sicuramente mi segneranno come mediatore anche nei prossimi incontri con altri utenti, sicuramente, ma porterò ai prossimi incontri con altri utenti le esperienze precedenti, sicuramente. Vero? Sì. Bravo. Ok, vogliamo tornare un attimo agli strumenti? Sì. Da dove siamo? Da dove abbiamo iniziato? Allora, consapevolezza di sé. Beh, l'abbiamo anche ribadito adesso rispetto alla sfera emotiva, no? Sapere che in quella situazione provo rabbia, quindi sapere, ma quando mi arrabbio, io come reagisco in generale nella vita? Voi sapete come reagite quando siete arrabbiati, per esempio? Sì. Quando provate rabbia? Sì. Allora, tu per esempio? Mi chiudo me stessa. Divento muta. Diventi muta. E mettiamo che ti arrabbi con un beneficiario, con un utente al lavoro. Che succede? Bisogna mediare. Sì. Non posso essere stare magari a quel punto provo a non fare mutismo complesso, però fare trovare, però diverso, non lo so, tu sai, Dora, per sapere, allora, perché allora rispetto all'emozione, no, anche il concetto di emozione è fondamentale all'interno di una relazione, perché aspettate, ce lo vedo così. Questo non c'è Touré. Abbiamo finito pure il pennarello, eh. Abbiamo studiato molto. Allora. Quando parliamo di relazione d'aiuto, dicevo, è fondamentale parlare di emozione, perché se noi abbiamo detto che dobbiamo avere consapevolezza di noi stessi, sia in quanto pregiudizi, stereotipi, opinioni, dobbiamo avere anche consapevolezza delle emozioni che si attivano e di quali sono le nostre reazioni a una determinata emozione. Adesso, se io vi chiedessi che cos'è l'emozione, voi che cosa mi direste? Indipendentemente da quello che ho scritto io, poi questo ve lo spiego. Sentimenti che noi... Sentimenti, dice Bahia. Non mi è mai capitato di dover dire... L'emozione così. Sarebbe vivere quel momento, sarebbe con la situazione in cui siamo. Sì, è. L'emozione è un... È un mix di tra rabbia, tristezza. Tu non le dividi? Anche tu. Sì. È positivo, negativo, emozione. Nina, e quali sono per te positive e quali sono negative? Qualcosa che riesci a fare, magari sei riuscita di far capire, quindi magari se parli con un utente, no? Convincere. È negativo se non è finito, quindi qualcosa non è andata bene, quindi devi rifare, lavorare. E in quel caso, però, quando voi dite emozioni, quali sono le fondamentali? Partiamo da un passo prima. Ci stanno emozioni tristi, emozioni contenti, allegria, gioia. Emozioni di gioia, emozioni di frustrazione. Che però fa capo a un'altra emozione principale, rabbia, esattamente. Anche una ma tristezza non entra nella rabbia, no, c'è un'altra cosa. Tristezza. Allora, le quattro fondamentali sono tristezza, rabbia, paura e gioia. Le fondamentali. Poi ce ne sono tante varianti: disgusto, frustrazione, vergogna. Sono tutte variabili, ok? Delle quattro fondamentali: rabbia, tristezza, gioia e paura, ok? Alle quali diamo connotazione positiva o negativa. Poi è chiaro che non sempre, cioè quasi mai, una situazione genera una sola emozione. È difficile che io sono arrabbiato. No. Magari sono arrabbiato, ma anche triste perché quell'utente non mi ha portato rispetto. Quindi la mancanza di rispetto da parte di quel ragazzo nello sprar o nel CAS, da una parte mi fa arrabbiare molto, ma dall'altra mi fa tristezza, dispiacere, perché magari io pensavo che per il tipo di relazione che c'è tra me e quel ragazzo mi avrebbe rispettato, invece non è andato così. Quante volte, Bahia, ci sei rimasta male tu? Certo, ma esempio io adesso nelle commissioni, stiamo facendo preparazione delle commissioni. Ah. C'è una donna che sempre ha raccontato tutto. Dove sono? Ottati. Sì, stiamo preparando per la famiglia di Benjamica. Nadia ha iniziato a raccontare adesso con Rocco la sua storia, cioè che ha vissuto in Marocco, credimi che da quando è iniziato finché è finito pianto. Cioè, delle cose anche tu non rendi conto perché lei l'ha nascosta sempre tutti questi 2 anni, però adesso sta raccontando le sofferenze che lei ha vissuto. Anche con la famiglia sono cose, però cioè, sono rimasta io che sono un po', alla fine ho cercato sempre di ribattuti durante il colloquio per non renderla proprio tragica, ma l'ho vista proprio male, emozione forte, che quando ho finito con mal di testa, proprio terribile. Certo, immagino. No, poi sono rimasta perché dico, cioè, come lei ha reagito tutto questo tempo? a questo? È stata proprio tutto nascosto, tutto come fosse, e ha fatto una personalità che non è sua, per tutto questo un meccanismo di difesa. Di difesa, certo. Ma lei ha, come dire, ha posto, cioè ha fatto difficoltà, non voleva raccontare la storia personale o invece sì? No, corrotto. Cioè è stata disponibile? No, no, subito. L'ha raccontata, sì. Ci sono anche... Però non l'ha mai raccontata, ad esempio, anche abbiamo parlato sempre, ma non l'ha mai messa in discussione. Però adesso nelle commissioni sta mettendo fuori. Sì. Immagino, immagino. Quindi, stavamo dicendo, ve le segno le fondamentali? Rabbia, abbiamo già... Allora, queste sono le fondamentali, ok? Lo segno sopra, emozioni, fondamentali. Ragazzi, che devo andare? Fare la foto dopo, la mando su WhatsApp, grazie. Ah, devi mettere l'orario. Sì, no, sì. Ma c'era un caffè qua, chi è che l'ha preso? Se qualcuno lo vuole, non è freddo, ovviamente. Ciao, ciao, Isera. Ciao, ciao. Stavamo dicendo, arriva Mina che dice alcune emozioni sono positive e altre sono negative. Ma fammi capire tra le fondamentali quali tu ritieni positive e quali tu ritieni negative. Per te. Paura. Lo so che sembra una domanda strana, ma poi faccio capire perché. Paura. Paura. Rabbia. Paura e rabbia? Sì. Mettiamo il segno meno per Nina, cioè negative per Nina. Queste altre due? Tristezza e gioia? Anche tristezza, sì. Negativa? Sì. Gioia? Positiva. Positiva. Che ne pensate voi altri di questa cosa che abbiamo scritto? La gioia, non, cioè, detto così, è una cosa positiva, certo. Però in un certo contesto magari esprimere gioia mentre davanti a una persona che per esempio un funerale non è tanto positivo. Lo so che è brutto l'esempio, però quindi però forse noi parliamo in generale, in generale non per voi in generale sì, sì, sì. E nel diverse situazioni e diverse emozioni. No, in generale, qual è la connotazione date alle emozioni positive e negative? Nina dice, per me in generale, tutte rabbia, negative, gioia per positiva. Pure per me. Per voi? Alfred? Anche per me. La paura non può essere positiva. Sì. Ci stai pensando. Douglas? Per me la tristezza è anche una cosa positiva. Mm. Allora, Douglas dice, ma mettiamoci pure un più alla tristezza. Perché? La tristezza perché con la storia di Dora sì. Era, diciamo, triste. Era triste, ma ed era anche una cosa bella. Sì. Perché? Perché? Ti chiedo no, perché? Dice, ma questo è strano che lui dica che la no, forse ho capito io, forse. Perché fa del bene. No, finché noi abbiamo emozioni, sempre positivo è già questo è una cosa. È una forma di contatto l'emozione, capite? Però se io provo indifferenza, non provo nulla, vuol dire che non sto in relazione con te, con l'utente. Hai ragione, Douglas. Cioè, come se lui dicesse la tristezza che tu provavi ti faceva stare in relazione con quell'utente, l'hai aiutato. Questo volevi dire, Douglas? Sì. Ok. Lei poi a un certo punto si è resa conto però che si stava sforando rispetto ai confini professionali, no? Altri? Tutti d'accordo? Dove metteresti il segno più? Gioia. Da nessuna parte? Solo gioia, già c'è. Unanimamente c'è. Ho una paura se ci salva di una situazione. Esprimere paura per salvarsi di una situazione. Se arriva una macchina a tutta velocità per strada che non rispetta i segnali stradali, ad esempio, se io non mi spavento e resto immobile in mezzo alla strada, io vengo travolta. Ma se mi spavento, io mi salvo. Cioè, oppure, se mi spavento rispetto all'aggressività di un utente, io prendo la distanza fisica giusta. Sto attenta a che cosa gli dico, che cosa non gli dico, perché so che potrei attivare aggressività, no? Cioè, certo. Se ragioniamo così, già noi abbiamo detto il positivo, quei sentimenti che tu ti senti all'inizio, che la gioia è perché ti senti proprio felice, invece le altre hai sempre una tristezza, una paura dentro, perché anche se andiamo alla rabbia, esempio, anche se uno ti aggredisce, io anche la mia esperienza con i minori penale, se tu non li aggredisce, cioè lui forse sale sopra sì. di te e ti mangia, sì. però quando vede la tua reazione, che tu sei arrabbiata e anche tu hai alzato la voce, lui si tranquillizza e si torna indietro, quindi che ha paura. Okay. Più. Cioè tutte hanno sia valenza positiva che negativa, no? Possono avere sia valenza positiva che negativa. Sì. È la questione che vanno contestualizzate, ok? Ma quello che importa a voi mediatori è che tutte le dobbiamo saper gestire. Questo è il punto. Al di là se pensiamo su positive, negative, la questione è la gestione quando io, mentre io faccio mediazione di queste emozioni. Perché poi, volete un esempio di rabbia in senso positivo? La rabbia distruttiva è quella di uno che si è arrabbiato, rompe, picchia, urla, non rispetta le regole, provoca. Ma la rabbia giusta di uno che dice: ascolta, non sono d'accordo con te. La rabbia che fa differenziare me da te. Tu stai facendo questo, io non sono d'accordo. È una rabbia buona. Una rabbia che fa differenza tra me e te. Se la utilizzo così. Perché noi la rabbia la pensiamo sempre come reattività. Sono arrabbiato, quindi rompo, urlo. Ok? Ma non è detto che sia così. Anzi, questo per dire adesso che cos'è l'emozione. In realtà l'emozione è un processo, non è una cosa, perché arriva un input, uno stimolo dall'esterno, potrebbe essere l'auto che corre a 180 km orari su una strada in cui il limite è 90, ok? Oppure uno stimolo interno, vedo un'auto che corre forte. Ricordo, sono stata investita quando avevo 5 anni, quindi mi spavento, ok? Mi fermo. Quando arriva questo input che può essere esterno, vedere l'auto che corre, interno, ricordare di essere stato investito, si attiva reazioni fisiologiche, cioè reazioni del proprio corpo. Quando sei spaventata, Dora, che cosa senti nel tuo corpo? O quando sei arrabbiata, sai che cosa provi nel tuo corpo? Come avere l'adrenalina, una cosa che un flusso che uno sente che sta salendo. Quando ti arrabbi, è più caldo? Sì. Perché? Ti emozioni, forse un po'. Perché a livello proprio fisico che succede? È una cosa chimica. Il sangue sì. Nelle vene, nelle arterie, adrenalina va più veloce, no? Oppure certe volte anche in premi, oppure ci arrabbiamo in viso, diventiamo rossissimi. Bravo, ok, quasi il cuore, rigidi, il ritmo del cuore, boom boom boom, espira, batti cuore. Se sono spaventato, dipende quanto sono spaventato, e il ritmo della respirazione più veloce. Cioè, voi capite? Aumenta. Magari aumenta. E vi si... Per esempio, avete mai pensato che se tu sei spaventata a Bahia, la sì. respirazione aumenta? Così, diventa più corto il respiro. E se invece in un'altra persona che si spaventa molto, immagino un utente molto spaventato, e voi lo state accompagnando in ospedale per fare la mediazione. Voi, in base alla vostra idea che quando uno si spaventa il ritmo della respirazione aumenta, potreste mai interpretare un'altra reazione. Mettiamo che io sono molto spaventata, a me il respiro si blocca. Possibile che io ho un'altra reazione fisica rispetto alla tua, no? Certo. Quindi tu devi sapere la tua, ma devi pure essere capace di guardare l'altra di reazione che magari non è uguale alla tua per tanti motivi, per vissuti, per... C'è anche le persone più ansiose. Le persone più ansiose, esatto. Quindi la capacità di decentrarsi, quel termine, quando tu dicevi quella neutralità, no? E quella capacità di decentramento. Cioè, io non sono focalizzato solo su me stesso quando sto nella relazione, ma devo essere capace di avere occhio a me, occhio a lui e occhio a quello che sta succedendo tra me e lui, ma anche tra lui e, diciamo, l'ente, il dottore, sì. in quel caso, no? Un poco... è complicato, perché mentre io sto in relazione con te, no? E sto facendo la mediatrice, nel frattempo io e te insieme siamo in relazione al dottore, il dottore sta in relazione all'infermiera, e quindi è una rete di relazioni rispetto alla quale il mediatore giustamente deve tenere un po' occhio, perché poi deve anche, tra virgolette, tradurre quello che sta succedendo al beneficiario, no? Per farlo sentire più sicuro, per fargli sentire che si può fidare, che può stare tranquillo. Che succede? Che state pensando? Lo so che è complesso, no? No. No, non è complesso da capire, è complesso da fare. No, sono di cose che anche noi prima non c'è, ad esempio non le rendiamo conto, ma anche con la formazione anche fai la differenza delle cose, ti aiuta anche a capire di cose che tu li fai senza capirle, invece adesso metti in ordine le cose, state mettendo in ordine, sì. Mi fa piacere, ma qualsiasi dubbio vi viene chiedetemi, ok? Anche se vi viene qualche dubbio dopo questa giornata, ditelo a Giulio, magari se vi devo scrivere una mail, se vi devo, c'è troppo problema, vabbè. Quindi, stavamo dicendo, quindi non dare per scontato che chi si arrabbia sicuramente c'ha il respiro accelerato, chi si spaventa sicuramente c'ha il respiro accelerato. Da questa, diciamo, reazione del corpo, ma su frazioni di millesimi di secondo, non pensate che passano minuti da qua a qua, perché se passassero minuti io sarei investito dall'auto, invece è una reazione, la vedo e mi scanso, no? Proprio... microsecondi, da questa attivazione del corpo poi si attiva un pensiero che associo a quella situazione, anche un comportamento, ok? Quindi il beneficiario racconta la sua storia di vita, Bahia sente molta tristezza, cosa pensa e poi che cosa fa? Magari mette la mano sulla spalla a Nadia per dire ci siamo. Quindi l'emozione è un processo, non è una cosa che può essere definita con un concetto singolo, diciamo, no? Cosa vi turba? Che cosa vi zittisce? Questo fatto che state mettendo insieme delle cose? Sì, sì. I flash. Voi forse non avevate mai, diciamo, fatto un corso in cui si approfondiva un po' questo, no? No, abbiamo iniziato pure con i primi due incontri che abbiamo fatto con Rosanna. È stato proprio, cioè, anche loro belli, hanno reso, cioè, bene, abbiamo messo le cose in ordine. bene, è stato molto bello. Forse loro più tecnicamente, no? Proprio a livello di carta. Anche come il tuo, lei, tu Rosanna è la concentrata su la parole, sulle parole, sulla comunicazione, anche la relazione. È stato proprio simile. Ci siamo completate, dai. Sì, sì, sì. Beh. Non ti diamo il 10. Figurati. No, io spero solo, potevo preparare tante slide e metterle al computer, ce le ho, però ho pensato che non aveva senso parlare di relazione. Ma anche poi si scrive anche cose, mettervi là e far guardare quel autore, quella, no, non mi sembrava opportuno. Va bene. Domande? Torre se n'è andato. Tre. Allora torniamo un attimo qua. Douglas. Io ho detto dopo. Douglas. Si chiama Douglas. Allora lo scrivo qui perché è un nome. Ho sbagliato, visto? Mi fai pensare a una serie, secondo me. Quelle serie americane. Sì. Io forse perciò Michael ho detto Douglas. No? Michael Douglas è un attore. C'è un Michael Douglas. Sì. Ecco. Allora, altri strumenti. Brainstorming, vai. Chi ha idee rispetto agli strumenti da utilizzare per mantenere i confini professionali? I confini professionali. Ho fatto un salto indietro. Che altro mi viene in mente? Prendetevi un attimo. Ci vuole anche un po' di durezza. Deve essere un po' duro qualche volta con loro. Per esempio, io lo dico dalla mia esperienza, ad esempio con il rapporto prima con le famiglie, io c'era più amichevole, anche diciamo fratellanza più anche, però c'è qualche volta deve essere dura anche nelle tue risposte, non sempre. Ok, quindi la competenza relazionale in questo senso, o comunicativa? No, anche comunicativo, perché la prima volta allora cerco sempre anche di mediare anche le comunicazioni, sarebbe renderle più dolci, girarli per farli capire, invece dopo un po' di tempo devi dire quello che c'è. Poi voglio capire perché le ritieni dure o dolce come sì, perché come dipende concetti. Perché all'inizio loro non accettano mai le regole o le comunicazioni come vengono dati da loro. Allora io cercavo sempre di dargli quella formazione, però sempre più dolce, capito? Ma si fa perché deve questo, perché dopo deve tenere, hai capito? Anche mettendo di cose che non esistono, è la verità. E beh, cioè, ma questo creava problemi poi? No, perché all'inizio non può mai essere fatto come imposizione, sarebbe le cose, no, perché anche loro non accettano, diventano tutto contrario, capito? No, è per qualsiasi cosa. Invece dopo, con un po' di tempo, lo faccio capire che comunque noi al nostro paese è così, però qua è così. Cioè, allora inizio a farli entrare che qua c'è la differenza delle regole, anche le leggi, esempio per fare qualsiasi documento, non è lo stesso come in Marocco, ma questo. Cioè poi dopo, quando tu gli spieghi tutto, cioè viene anche il momento che loro vogliono continuare a fare quello che vogliono, allora a un certo punto la devi fare per forza, capito? Per questo deve dire che, cioè, deve essere dura anche a dire le cose, non più dolcirli, mettere un po' di... Che ne pensate? Io ho una proposta. Forse tu hai una posizione? No, una proposta. Una proposta? Ok. No, non lo so se è valido. Ma l'intimità, per non condividere le cose intime con l'utente, che lui non può capire, diciamo, il significato di quello che stai condividendo con lui, può andare oltre e lì tu non puoi usare, tu non puoi, tu non puoi, diciamo, riuscire a proteggerti, a proteggerti. Mm. E non so se l'intimità può essere un strumento. Però la l'intimità sarebbe, cosa intendeva con l'intimità? Vuole sapere, Douglas vuole sapere un attimo meglio. Cosa intendevo con l'intimità? L'intimità, diciamo, di sarebbe raccontare la sua vita privata. Cioè che l'operatore racconti la sua vita privata all'utente. Sì. Ovviamente Douglas sta facendo un esempio per chi lavora in un centro di accoglienza, dove voi avete un rapporto continuativo con un utente, forse per chi, non so, fa mediazione in tribunale, diciamo, voi non avete continuità di relazione con quell'utente, no? Un giorno, solo quel giorno, basta. Anzi, loro cercano di sempre parlarti, io la capisco benissimo, però noi abbiamo un altro regolo, che ti vedono, dicono già lo sai, quindi non qualcosa che ti possono... Sì. Mi rendo conto. Non è semplice. Sì, veramente, sì. Come si diceva prima, un po' in tribunale fanno fare un po' gli interpreti, non i mediatori, no? È vero. Sì. Vabbè, magari perdendosi delle complessità, no? Chiaro che la traduzione letterale non è mai... non è sempre buona. Avete un esempio? Cioè, vi siete trovati in situazioni in cui Nina oppure tu avete dovuto fare una traduzione letterale perché così vi è stato chiesto dal tribunale o da un ente, ma che avete sentito che non l'avete dovuta fare perché era un dovere, ma che avete sentito che in quel modo non veniva capito e compreso il reale bisogno o la reale intenzione dell'utente? Vi è capitato? Non è capito la... Allora, è un po' difficile, hai ragione, cerco di essere più chiara. Cioè, Nina si trova in tribunale, ok? Come mediatore, ma in realtà le dicono, tu assolutamente traduci alla lettera quello che ti dice l'utente, ok? In questo tradurre alla lettera, qualche volta, Nina, ti è capitato di tradurre alla lettera sì, ma di essere rimasta perplessa o dispiaciuta perché traducendo alla lettera magari il giudice non ha ben capito veramente quell'utente che cosa voleva dire? Vabbè, capita che non, magari ha scritto in modo diverso, ha capito, però alla fine noi leggiamo, diciamo che vedi che non intendeva questa, c'è forse qualcosa, quindi c'è possibilità di rettificare. Sì. Poi domando, tutto questo che hai raccontato, quindi vuoi c'è qualcosa magari non è stata scritta o magari abbiamo sbagliato? Ah, ok, sì, okay. Sì. C'è poi, modo di... No, se si non può. Sapevo ci fosse tutto questo tempo poter... No, sì. Ok. Però ci sono storie molto dure, veramente, ma no. Ci sono anche niente particolare. Meno dure. La traduzione non lo so, l'ha fatto su non di edute, di interprete diretta, ma su documenti. Non direi che sempre possiamo fare solo traduzione di lettere. Sono d'accordo con te. A un certo punto dobbiamo dire, perché le lingue, tra le lingue e le sfumature di lingue non è sempre bene tradurre. Sono d'accordo con te. Dare quell'idea di quel contesto. È proprio quella la differenza tra mediatore e l'interprete. È proprio quella, sono d'accordo con te, Dora. Cioè, penso che voi mediatori vi sentite molto stretti nei panni di interprete. No? Sì. Penso che fare mediatore è molto difficile. Che scalciate nei panni di interprete, no? Sì, perché no, molto più hai proprio contatto con l'utente, quindi quello... Per un interprete, in quel momento racconta, è più quello di interprete, è un lavoro forse più freddo, diciamo così, no? Più tecnico. Sì. Sì. Cioè, questa parola in inglese si dice così. Sì. No? Sì. Invece fare il mediatore è molto più difficile. Sì, è nella relazione, sì, proprio. e anche deve capire pure la cultura di la cultura italiana e tutto. Certo, certo. E non sottovalutare che io sono competente nel fare il mediatore, ma l'utente è competente rispetto alla sua storia di vita, è competente rispetto alla sua voglia di intraprendere un percorso, cioè anche l'utente ha delle competenze sue, ha delle caratteristiche sue personali. Ma non è che le abbiamo solo noi. Cioè il mediatore non fa soltanto con l'utente, ma le fa anche con gli operatori che lavorano con lui. Esattamente, cioè. Altro livello di complessità. Questo per te, Bahia, lei vi sta portando esempi di sempre di lavoro in equipe, quindi strutture, no? Tu Nina non ce n'ha lavorato, quindi Nina non ha mai lavorato in equipe. Tu sì. In equipe però non come mediatore. Sì, ma vabbè, in equipe. Sì, sì, chi di voi ha mai lavorato in equipe? No. Che sarebbe il tribunale? C'è gruppo, una squadra. Gruppo di lavoro. Sì, sì. Una squadra di lavoro. Perché a questo punto. In Italia no, in Georgia sì. Perché okay, esempio io okay. Cioè, anche se non da mediatore, però hai l'idea di che cosa significa sì, lavorare sì, in un sì, team. Sì. Okay. Perché esempio io c'è a Fisciano questa sì. Cosa. C'era un'educatrice che è proprio bravissima. Mm. Però lei aveva regole e cose fissate come quello che ha fatto sempre l'educatrice con italiani, pensava che lo stesso vada bene con stranieri. Marita. Ah? Annarita. No, non è Annarita, ma Marina. Chi? Macrina. Ah, no, Annarita è referente. Macrina è educatrice. Okay. Lei è bravissima, lei è de Baronisse proprio. Ah, lì, okay. Cusi, no, allora non l'ho Gaiano, quella cosa. Lei è bravissima anche di cure, umana, tutto, però c'è il suo modo di agire con lo stesso modo che le idee italiane devono essere anche con l'amore, è andata bene con il rapporto con... Io sono arrivata un po' dopo. Mm. Allora, quando sono arrivata io, farle la mediazione anche per lei, allora farla capire che il nostro paese è così, a tuo paese è così, che noi pensiamo così, voi pensate, ti giuro ho cambiato tutto, lei anche nelle supervisioni mi dice certo. Spesso, perché anche quando è venuto Riccardo per fare, ha detto io con Bahia ha cambiato anche il mio modo di lavorare, certo. Perché l'ho aiutata anche a capire gli altri e dopo è diventata lei la preferita da tutti quei beneficiari, ti giuro che loro vogliono che Macrina che viene a dirgli le cose e fargli le cose. Perché magari le regole le ha mantenute, ma ha cambiato il modo. Sì, no, le regole sono sempre, però il modo suo, con quel modo autoritario che noi si fa così, allora si fa così, come si fa a casa sua, hai capito? Come si fa, cioè, in Italia. Però è dura anche a uno che è abituato a una cosa. Per questo anche noi facciamo anche il mediatore. Quanto anche c'entra per pure, Bahia, ti volevo chiedere una cosa, ma quanto c'entra pure, diciamo, l'identità sessuale dell'operatore? Cioè, se io sono donna o sono uomo, rispetto ad alcune culture, penso che ci sia anche certo. Questo problema, no? Certo. Cioè, se io donna do una regola a, non so, in particolare chi ha questa... Macrina? Mi è capitato io, nel lavoro. Cioè, avete capito la mia domanda, cioè, la mia domanda, la mia considerazione è ma quanto è complesso che un operatore, una donna, dia delle regole... A degli uomini. A degli uomini. Rispetto per la cultura di alcuni utenti. Sì, ma noi nostri uomini cioè, hanno carattere, cioè, soprattutto io parlo di arabo. Anche, non lo so, io mi sono capitato col lavoro che una persona che, a chi dava una spiegazione della legge, per dire, che poteva dirlo Nihal, poteva dirlo, non l'ha accettato perché ero giovane, donna. Ho dovuto chiamare il mio datore di lavoro per parlare con quella persona che ha dato le stesse spiegazioni. È uscito con un sorriso perché purtroppo era una persona di una certa età, un uomo, e quindi già c'era quel rifiuto di aver a che fare con una donna sì. Giovane che doveva dare delle regole. Queste cose c'è dappertutto, cioè quindi, anche esempio non dipende neanche della non è soprattutto non è della cultura, esempio io ho lavorato anche con uomini vedendo una donna con il velo straniera non può dire cose a lui, cioè anche queste cose ci sono anche qua, non cioè, no, certo, non, certo. Non cambia nulla del siamo tutti, abbiamo tutti culture differenti, abbiamo tutto sì. Esempio vedendo anche una donna straniera lascia stare con velo con questo una donna straniera non può dare informazione a un italiano. Cioè, anche questi esistono. Capite quante cose? Sì, anche per me è capitato parecchie volte, perché quando mi chiama Edensia, c'è una donna. Perché loro pensano magari, perché in alcune culture le donne non vogliono un uomo parli di mediatore. E tu dici, no, beh. Io sento pure perché nel mio paese non c'è questo tipo di... Okay. Perché volte nel mondo musulmano, non so, c'è tante volte che non vuole un uomo fare mediazione, sì. Tante sì. Volte. Specialmente anche sanitario, un uomo che non vuole andare... Certo, sul sanitario un po' di più, soprattutto il ginecologo, questo, ma non è che non fa sì. Mediazione. Per il tuo mi è capitato, mi dice che loro non vuole mandare un uomo, pare anche con il territoriale. Che quindi se io mi chiedo tu hai esperienza di parlare con le donne, io ho già fatto parecchio sì. Quindi loro mi fanno complimenti dopo che va a tendere mi danno complimenti, sei bravo, siete bravo, prego, se te non ce la fai io faccio quel neutrale senza entrare in dettagli, emozioni, mi dare il mio giudizio, fatto il mio lavoro, certo. Quindi, se vogliamo tornare ai metodi per non sforare, no? Vogliamo metterci... Che state facendo oggi? Che state facendo oggi? Ascoltando. Non so. Formazione. Questo è un altro strumento valido per mantenere i confini professionali. Poi, per chi lavora in equipe? Nella realtà dell'equipe ci sono molte risorse. Riunioni. Ah, feedback. Condivisioni, no? Bahia, ma tu vista troppo presa in quella storia di vita personale. Attenzione, non lo so, dico, no? Comunicazione efficace. Nell'Egitto. Questo è sempre, stiamo parlando sempre di un lavoro fatto in Egitto, ok? Altri strumenti che usiamo. Comunicazioni, diari, anche quelli. Anche l'accordo, dobbiamo essere d'accordo. Dobbiamo essere d'accordo su tutte quelle cose di decisione, le cose che noi facciamo. Deve essere la stessa cosa. Sì. Supervisione, nel caso della... Quella è importantissima. La riunione è diversa dalla supervisione. Allora, per chi non sta nello sprano, la riunione, ad esempio, è su questioni organizzative, cioè chi accompagna il beneficiario a... Oppure questo beneficiario in questo periodo non ci segue, quali strategie vogliamo adottare affinché, non lo so. Vai, io qualche esempio pratico di cose che no, la riunione sarebbe riunione di KIP, sarebbe l'educatore, sì. Solo quelli interni, no, la supervisione rispetto, esterno. Rispetto ai contenuti, volevo fare qualche esempio, tu considera che loro non sono inseriti in KIP. Quindi provo a fare esempio. La riunione in cui anche si parla dell'andamento, cosa dobbiamo fare, cosa abbiamo dove fatto. Dove è arrivato quel beneficiario, dove sì. Deve arrivare. Cosa abbiamo fatto e cosa non è andata bene e dobbiamo aggiustarlo per cambiarlo, per andare bene okay. Le prossime cose che noi facciamo. Focus anche sulle sarebbe... i beneficiari. Sì, certo. Ok? Cioè l'oggetto della riunione sono i beneficiari e l'organizzazione dello strato, del CAS. La supervisione invece è un livello diverso nel quale solitamente ci si sofferma su come stiamo noi operatori. Però anche la presenza di uno esterno. Sì, un esterno. Io non sono nell'equipe dove lavora Bahia, nel senso che non sono quotidianamente nello SPRAR, non faccio i turni con lo SPRAR, ok? Ma sono una persona esterna. Che guarda, diciamo, cerco di guardare obiettivamente a quello che accade nell'equipe, tra gli operatori e i beneficiari, tra il coordinatore e gli operatori, tra il coordinatore e i beneficiari, sono tanti livelli relazionali e solitamente cerco di coglierne l'emotivo, metabolizzare diciamo irrisolti da un punto di vista emotivo, conflittualità che ci possono trovare essere, le soluzioni e trovare su quelle cose che non sono riusciti l'equipe da sole esatto. Dare input rispetto a soluzioni o semplicemente stando sull'emotivo fare in modo che l'equipe poi trovi le soluzioni. Quindi supervisione sempre per chi lavora in equipe, lo metto di qua, va? Non niente altro, ci siamo quasi. Siete un po' stanchi? No, siamo quasi. Vediamo se ne avevo segnato qualcun altro anch'io. Sì, sì, vai. Erano quelli che confini personali, formazione, il decentramento, l'abbiamo detto prima, no? Non me lo stavo dimenticando. Decentramento. E li ero un po' segnati tutti. Ah, la capacità di ascolto attivo. Sì. Anche la buona volontà. Non dare giudizi personali. Non dare giudizi personali. Sì. Questo qua. No, scusa, dobbiamo collegare a questo, Sta qua. Giusto? Sì. Rientra in questo. Il decentramento. Che avevamo detto più? Vabbè, consapevolezza, quindi utilizzo consapevole del sé, no? Non solo sapere, ma anche saper utilizzare quello che so di me. Sì. O saperlo mettere da parte. Sì. Me ne vengono in mente altre? Mi sembra che queste sono tutte quelle... La distanza. La distanza. Giusta distanza. Ehi, c'è la maniglia. Relazionale ed emotiva, vero? Sì. Beh, l'abbiamo quasi riuscito. Vediamo, avete esempi pratici di situazioni in cui vi siete trovati in difficoltà nel mediare o nello stare in relazione a qualche utente? Proprio fatti pratici. Anche il mediatore come sa anche il modo di vestire, no? Se va a fare il mediatore con la tuta magari vede una come la tuta. Esattamente. L'immagine. E quindi questa come la chiamiamo? La chiamiamo comunicazione non verbale. Cioè se io mi vesto in un modo ti sto dicendo vengo con la tuta, con le scarpette, sono al tuo pari. Se io oggi... Chi è? Ah, ecco, vai io. Ci ho pensato oggi, mi sembrerà... Ma facciamo un esempio su di me, no? Io oggi ci ho pensato a come mi devo vestire. Nel senso, e se io vado al mio studio, mi vesto. Se sto a casa, sto sempre con la tuta, quasi sempre. Comoda, capito? Stamattina ho detto, ma oggi è una formazione, che cosa mi metto? Allora ho pensato, se mi metto la giacca, no, troppo formale, io vado a parlare della relazione. Se avessi dovuto fare una formazione, non lo so, ad avvocati, allora magari uno... ma non è tanto a chi la faccio, è l'oggetto. Cioè io non ho pensato, se è l'avvocato metto la giacca, se è il mediatore, no. Perché sottovaluto la figura del mediatore, no, ma mi sono detta, ma io vado a parlare di relazione, se io vado giacca, tacchi, non lo so, che impressione posso dare? Informale. Di formalità. Allora, come ci entro in relazione queste persone? Al di là se mi appartiene o meno essere, stare coi tacchi, la giacca, ok? Preferisco evitarli se si può, però in generale uno si adegua, no? Al, perché stava dicendo che anche il modo di vestirsi molto spesso veicola un messaggio e quindi, come dire, è un modo per dire all'altro: vabbè, siamo compagni, perché vedi, tu te scarpetta tutte e due, o piuttosto io sono un mediatore, vado a mediare, vado con la camicia, sto attento, magari non metto la giacca, però metto la camicia, metto un pantalone serio, non lo so, no? Quindi io però questa cosa del vestire la faccio rientrare nella comunicazione non verbale. Se fossi venuta con la giacca stamattina e coi tacchi, avreste immediatamente, vi sareste presi un messaggio, magari poi lo come dire, lo veniva disconfermato, però sicuramente vi facevate un'idea, no? E chiaramente quello che dice lui è fondamentale, perché se noi facciamo un discorso di chi lavora in un'equipe dove ha possibilità di vedere l'utente un giorno, due, tre, quattro, cinque, ma quando, come nel suo caso, in quello di Nina, come dire, l'incontro è unico, l'imprinting, no? L'impronta che uno dà subito a quella relazione dipende anche da come uno si è nel momento, no? Quindi metto comunicazione non verbale, saper gestire la comunicazione non verbale. Gestione. Okay. Penso che ne abbiamo messe molte. Quasi completa. Quasi completa. Lo potete anche completare a casa, nel senso che vi fate lo schema, poi ogni volta che vi viene in mente qualcosa si completa. Però dobbiamo fare così. Chiedevo Baia quando sei andata in bagno se alcuni di voi, se voi avete degli esempi di situazioni in cui vi siete trovati in difficoltà rispetto alla mediazione e per quale motivo? Per caratteristiche personali, per caratteristiche, per disorganizzazione dell'equipe, per esempio, quando si è in equipe anche l'organizzazione, la buona organizzazione dell'equipe, dei ruoli e funzioni permettono di mantenere i confini professionali. Siete d'accordo? Sì. Quindi, qua diciamo abbiamo messo da parte per chi lavora in equipe. Di ruoli e funzioni. Esempi pratici? Situazioni in cui mi volete chiedere, mi sono trovata in questa situazione, come è stata complicata, però me la sono cavata, è stata... No, io quando c'è esempio il beneficiario chiede una cosa che si può fare e c'è per regole, per queste cose c'è il divieto di non farla, anche se è una cosa che per me è concepibile, è fattibile. E poi quando... E tu come ti regoli, Baila, quando ci sono queste situazioni? No, quella è dura anche per me, perché farlo convincere di una cosa che anche io convinta lo stesso. Che non di sono quello. Convinta. Di che non sono... sono convinta, non c'è. Non... E ma tu rispetto a questo, Baila, provi mai a fare, mo ci vuole mediazione con l'equipe? Cioè, nel senso... Sì, ho sempre cercato sempre di farlo, però, cioè, le cose che... si fissano che si devono fare, allora devi dire. Ma si fissano che si devono fare? Però io lo dico sempre, non è per l'equipe, ma non è l'equipe che ha deciso, ma da sopra viene, hai capito? Non metto mai in equipe che loro, che ha scelta loro, ma è la cosa superiore dell'equipe, così non hanno conflitto anche con l'equipe, perché non vedono, cioè, se no mi vedono io la brava, come ha detto lui, e gli altri sono cattivi, ma io cerco sempre di mettere di evitare quel fenomeno della sia, sì, ma metto sempre che qualcosa di al di là sarebbe, metto sempre che il Ministero degli Interni che ha messo queste regole che devono essere rispettate anche dalla RADA, dal consorzio, ma non è per però utilizza una strategia, no? Cerco sempre per evitare la conflittualità tra operatori e non sempre. Deve farlo per sempre. E ti è capitato mai, Bahia, di non essere convinta di una regola e quindi di non essere capace di fare questa operazione, no? Di dire no, questa cosa non si può fare perché è decisa dal consorzio, cioè di trovarti a dare dei permessi o a fare delle cose. No, no, non ti nego che c'è delle cose che l'ho fatto anche nascosto. Sentite, udite. Ma io le cose anche che lo vedo anche più, ad esempio ti dico una cosa, ad esempio c'è la famiglia siriana che poco tempo che è arrivata, allora loro stanno optati, che sono, cioè, sperduti. Allora, per arrivare a Salerno, anche per trovare un supermercato, costa. Allora, quelli che stanno là, un pacchetto di 6 uova costa, cioè, 2 euro, invece ci scendi qua a Salerno, sul mercato costa 1 euro, sono 12 e 10, allora 1 euro qualcosa, 1 euro 50, qualche volta li trovi anche 1 euro 30, dipende di quei supermercato. Sì. Allora, quei soldi che prendono, loro in 15 giorni finiscono, perché là costa tutto, la banana 1 chilo. Per farli scendere, non sanno la strada, non sanno, e parlano già che devono essere indipendenti. Cioè, per me questa cosa è impossibile. Io ho fatto la spesa tante volte a loro e lo porto, loro mi dicono cosa manca e lo porto. Ma l'ho portato un poco, perché so che adesso non si può essere indipendente e non possono scendere con due bimbi, lei e la moglie, fino a Salerno, che devono prendere due autobus che durano 2 ore, la voglia che vomita, anche se andiamo a fare solo una, cioè una come cosa... a me, bravo. E allora lo vedo che è una cosa impossibile, e poi spendere tutti quei soldi là, cioè io quando salgo una volta a settimana l'ho fatta. Perché Bahia non l'hai proposto, cioè non l'hai detto? No, dicono che devono essere indipendenti, cioè indipendente fino a un certo punto. E poi queste cose, perché l'ho vissuto più io, allora lo sento di più che c'è, cioè, necessità di aiuto. Necessità di aiuto, chiedi loro. Cioè, non mi dici queste cose in sottovisione? No, sono due ambienti diversi. Sono sì, soprattutto. No. Non lo dico perché sono due cose completamente diverse. No, veramente. Che c'è, lo vedo la necessità. Cioè, ad esempio, bimbi che chiedono yogurt, la yogurt 2, cioè, costano, cioè, 2 euro. Io qua compro un pacchetto così, 2 euro, c'è 50, ce n'ho 6. E per questo ho visto che devo farlo, anche se loro dicono che non lo devo fare, perché io lo svizzo queste cose, ma non è vero, perché, ad esempio, tante volte mi chiedono le cose all'ultimo momento, lo dico. Mi devi dirlo già una settimana prima, così mi organizzo. Se mi dite l'ultimo giorno, oggi, devo alzare la mattina presto, queste cose, l'ho fatto 2 volte, però la terza non l'ho fatta. Io comunque do le regole nel miei piccolo, non la lascio superare i limiti. Un esempio, dal mondo del lavoro e anche quando abbiamo a che fare con le regole in generale, cioè anche nelle leggi, le regole non sono sempre... Vengono rispettate. No, non sono sempre efficaci. Di aiuto in certe situazioni. Però sono le regole, però non sono... Io per esempio lavoravo però, in un però team. Per esempio quello che dici tu, Bahia, no? Quando si è in equipe si dovrebbe, tu dici io ho condiviso ma loro non sono d'accordo, no? Ma allora un'altra strategia, cioè una volta a settimana un operatore scende e si va a fare la spesa con 2-3 capi famiglie. Non sono state dure a questa cosa, cioè sono state proprio chiusi. Tu sei di volontà allora. No, cioè, sono state proprio chiuse, o no, se le facciamo con uno dobbiamo fare con tutti, però cioè, le altre quando appena sono arrivate hanno trovato un'accoglienza grande, ampia, perché erano i primi immigrati che sono arrivati là e hanno avuto con loro esperienza. Allora quella esperienza con gli altri non l'hanno voluto farla pure con questi, perché si preoccupano che anche questi superano i limiti, come hanno fatto, chiedono sempre queste cose. Però c'è di cose che devono essere fatti con tutti. Non è, cioè, un problema, è un problema di tutti fare la spesa ottati. Cioè, si dovrebbe trovare una strategia. Però le altre comunque sono diventate autonome, hanno amici, allora chiedono un amico, li porta fino a Quaro, li porta a Ebbury, fa la spesa, fanno passaggi, sanno uscire, anche sanno la strada. Le altre non sanno neanche bene la strada, allora devono fare l'esperienza prima solo a scendere, poi cercare il supermercato dove sta, cioè un po' ancora fresca la cosa. Tu stai dicendo, bisogna tenere presente che gli altri nel percorso di autonomia sono a 50, loro stanno a 2, perché mo sono arrivati. Sì, ma questo possiamo quindi dire anche al 100%, perché ormai sono diventate autonomi. Ok, avanti. Ah, ecco, si è preoccupato di... Sì, perché sta arrivando a bussare. Ok. È scritto. Va bene. Altri esempi di difficoltà? È capitato in ospedale, no? Non in ospedale, ci sono tanti. con il sanitario c'è la grande, quelli, no. Non capiscono che cos'è un mediatore proprio. Cioè non... Io ho dovuto aspettare tre. Perché Bahia? Giorni. Vabbè, prima di tutto ritengo che la formazione, cioè, allora, la formazione si dovrebbe fare a tutti i livelli. Quello, cioè, anche gli operatori dei servizi sanitari. Per questo adesso hanno detto che faranno pure loro. Carcere. Dovrebbero. Non conoscono proprio che cos'è un mediatore. Ci trattano come fosse un beneficiario che viene straniero, che... La fortuna l'unica che tu parli bene l'italiano. L'italiano. Che ti sai difendere da loro, anche del mondo loro, sgarbato, ma proprio sono sgarbatissime. Soprattutto in ospedale, dici, sì, in Bahia. No, cioè, quando trovano... E rispetto ai beneficiari? Sarebbe... Uguale? Come si comportano? E poi sgarbati. Anche rispetto ai beneficiari, cioè, non solo rispetto a te, mediatore. No, ma c'è, anzi, mi mettono alla pari. Cioè, io dico come straniero. Allora, che non sai parlare, che non sai dire cosa hai come problema, come c'è, è difficile. Poi, se, soprattutto se tu sai anche un po' di medicina, un po' di questo, ma non ti permette proprio, se vieni dall'Africa, sai già queste cose. Cioè, capisco. C'è quella chiusura. Sì, no, c'è, cioè, proprio... Io all'ospedale quasi mai ho trovato, cioè, forse una volta. Medici, queste cose sono tutti chiusi. Qui chi ha fatto anche una, non lo so, io ho fatto anche un'esperienza personale all'ospedale durante il mio parto, che quindi... Già parlavi italiano, bene. Come oggi. Quindi mi chiedo come è possibile. Come è possibile? No, ma sono... Di essere stata trattata male? Non considerata forse proprio? Allora, considerata magari dai medici, per carità, sono stati bravi, eccetera, eccetera, ma dal personale servizio, infermieri, no, sono arrivata a un momento dove l'ospedale di Battipaglia e l'ospedale di Avellino hanno chiuso il servizio di maternità e hanno portato il personale che era Avellino. E quindi c'è già un conflitto tra due equip, e quindi avevo che fare con una equip la mattina, quella di Paese, quella di Avellino, e che avevano modi diversi di lavorare e anche di relazionarsi con, certo, e poi, per dire, nessuna assistenza, tu devi chiedere le cose al familiare per aiutarti, per magari per dire, l'ultimo giorno. Io, mia figlia ha avuto una sofferenza, quindi l'hanno portata al controllo, eccetera, eccetera. Quindi non sapevo se dovevo uscire quel giorno o no. Per dire, sono tornata nella mia stanza, non c'era il letto. Ah, signor, che dovete partire oggi? No, dobbiamo. Ero con la mia camicia di notte dopo un parto, non lo so, è stato. Certo. A parte altri dettagli che no. E mi chiedo, anche questo siriano che è stato. Sì, allora, l'esempio che facevi prima, no? lui per sfortuna è stato accolto in una prima accoglienza in una struttura forse che non era di quelle strutture che poi hanno chiuso perché erano gestite il personale. Per un mese è stato all'ospedale di Battipaglia. Lui doveva avere un mediatore che lavorava in quella struttura e nessuno veniva ma per tanto tempo. È stato un caso di una signora che ci conosceva, che ci ha chiamato, vedete c'è questa persona che... Quindi lui per mesi tra l'ospedale di Napoli e quello non sapeva che gli stavano facendo. Che stava facendo? Aveva lui è malato per questo terminale. Però pure l'ospedale dovrebbe chiamare qualcuno di competenza. No, non esiste. E io ho dovuto andare tre visite per parlare con un medico. Perché non ha, manca il film, non sappiamo, sta là, e poi lo vediamo, poi torniamo. E anche quella, lui era, cioè me lo diceva a me, io dal mio modo parlavo con il personale per far capire, però lui stava malissimo, nel senso di non sapere che cosa malattia che avesse. Io che fa, che mi, vengo, non mi mettono... Non aveva manco capito, quindi, qual era... Qual erano i rischi che stava correndo con questa malattia? No, cioè oggi per fortuna adesso sta un po' meglio. No, meglio perché ha, purtroppo ha la sua malattia incurabile, però adesso ha la pensione, ha sistemato delle cose, però ha avuto grandi difficoltà perché nessuno gli diceva niente, non sapeva che cosa aveva. No, ci trattano come fosse un animale proprio. Forse gli animali adesso li trattano molto meglio di persone, veramente. Che tristezza, eh? Perché quando vedono un straniero, cioè proprio. Sai, Bahia, io sto notando un po' che gli stranieri, ma anche con le categorie più deboli, con gli italiani, no? L'anziano che non tanto capisce. Io vi dico solo una cosa: c'è uguale atteggiamento. Non è una mia esperienza, questa c'è anche io quando ho fatto il patto, ad esempio. Un medico che lascia il suo lavoro e viene perché mia sorella stava con mio figlio, mia sorella aveva il velo, e ha preso mia sorella da qua, ha detto tu che stai facendo qua? Con il velo non puoi entrare. Perché? E dimmi tu. E lui è stato sfortunatissimo perché mia sorella... cioè, mica come a me, cioè quella proprio non ha faccia, non ha vergogna di nessuno, l'ha reso proprio come uno straccio da lavare. Cioè finché sono venuti quei personali, lui è stato sfortunato veramente, mia sorella è un terremoto. Cioè io ho avuto vergogna perché ero anche ancora debole perché appena sono arrivata ancora un ma po' dovevi per... restare cioè, a adesso si mi tocca, cioè adesso anche io lo faccio. È stato sfortunatissimo finché sono venuti gli altri medici, quelli lì, che pregano mia sorella, ma lui è così con tutti, è un grande razzista lui, è vero che l'hanno detto, però ma lasciare il tuo lavoro e venire a dare fastidio alla gente, ma ti rendi conto dove siamo arrivati? Perché lui pensava che c'era il potere là, allora poteva fare quello che può fare. Mi ricordo... Tu devi uscire, così. Cioè, il personale in generale, anche per esempio le questure, come si comportano. Per esempio, mi ricordo, ero alla... Sono andata impronta. Allora non parlavo italiano, parlavo inglese. Per farmi capire che dovevo mettermi davanti alla... Bastava... cioè, non sono una stupida, anche se non parlavo italiano, potevo capire. Così. Come un arrestato. Come una cosa. Una cosa. E si comportavano con tutti nella stessa maniera. Se fai così come ti picchi subito, appena dovevo così alle ti picchi. Con la storia, così io sono. E immagino, Alfred, che tu ti trovi in una situazione di mediazione in cui vedi che un medico fa così con l'utente a cui tu stai facendo mediazione. No, che fai? Sì, ha fatto con l'utente. Allora, c'è un altro modo, quello fatto capire, no? Non fisicamente, ma verbalmente, con mancato di rispetto, che quello che gli ha fatto non si fa. Soltanto è umano come te, non devi prendere come una, un tifoso. No, non si fa così, prendere una persona così. Certo. Ma se l'ha fatto con me, allora li devi chiamare la polizia subito. E però hai capito così, quanto ti fa rabbia pure se lo fa con un tuo connazionale, no? Come tu ti devi controllare, magari far capire. Cioè, dobbiamo controllare sempre, nei tutti i casi. Sì. Ho avuto questo problema dove sto, nel SRA, sì, gli operatori... Tu stai in uno strano. Sì, sì. Tu hai detto a fuori. No, a Salerno Materno. Ah, tu stai a Materno. Io perché si chiama Francesco, si lavora con una sua ragazza. Volete la bomba? Lui. Douglas? Siamo alla fine, se dovevo parlare ancora molto, no, perché sennò è complicato, grazie. Lui qualcuno che sempre, anche se è... Anche se lui dice le bugie, ma comunque gli spiega le cose per farsi capire. Anche se deve dire la bugia, lui ti dà la bugia per farti capire, per farti calmare. Ma la sua ragazza, no. Lei vuole usare sempre l'autorità. E sempre io e tu, sempre lui. E sempre lui. E va bene, siamo pronti per tutti. L'altra volta abbiamo notato che ogni... perché dobbiamo avere un ticket per cibo. Ok. Ogni 15 giorni e abbiamo notato che ogni mese dobbiamo avere 30 ticket, ma noi non abbiamo 30 ticket, abbiamo 24 ticket o 23 ticket. Dove vanno resti 7 o 6? Vabbè, vediamo. E poi ogni mese dobbiamo firmare una carta, sì, dove è scritto che abbiamo preso 30 ticket. Ho detto, ma questa carta io non firmo più. Se devo firmare, mi devono dire dove vanno 7 ticket, dove vanno 6 ticket. E ancora, pocket money, dobbiamo avere pocket money. Chi non va alla scuola non ha pocket money, ma comunque viene il soldo di pocket money. Noi non siamo qua per pocket money, ma fa parte dei nostri diritti. Sì. Devono dare. Ma noi che loro devono prendere per mettere nella tasca loro. Sì, anche se è un euro, devono dare, perché fa parte di nostri diritti. E poi ti fanno firmare delle cose, come questo e poi per me siamo andati, altri hanno preso, io non dico... Io faccio le cose come vedo io. Abbiamo preso, hanno preso tutto e poi alla fine ho preso per me, ho detto Alfa devi firmare qua. Ho detto vabbè, io non firmo qua. Perché? Perché ogni mese dobbiamo prendere 30 ticket e abbiamo preso 24 ticket. Qua è scritto 30 ticket, io non firmo. Se vuoi che firmo, o mi dai quello che manca, o fai quello che vuoi, io non firmo. E poi non ho firmato, ho detto vabbè. Se tu non firmi, io chiamo Carabinieri, va bene, se vuoi chiama Salvini, io non firmo. Io non firmo. E poi non ho firmato, ha fatto casino, ha buttato ha aperto la porta con posto di cui sono andato. Fino a lei non parla con me. Fino a hanno detto no, vai a chiedere scusa con lei, ho detto io, Alfred, andare a chiedere scusa a lei. Se non ragioni, va bene, io credo solo, ma ho ragione. Stanno rubando i soldi dello Stato e stanno dicendo che noi immigranti. No, noi immigranti non abbiamo rubato nessuno, ma loro stanno rubando e poi stanno dicendo che noi immigranti. E vedi questo come lo so. E io sono contro di questo. Sempre faccio. Aspetta, ma il ticket per mangiare, no? Ti assicurano che mangi 30 giorni, però ti davano 24 ticket. Sì, 24 o 23, dipende. La volta 24, la volta 23, la volta 24, i pocket money non vengono mai. Ma comunque tu non prendi mai da noi non mai, ma da loro, nella loro tasca. Ma pocket money non è obbligatorio. No, sì, ma le strutture. Mi dispiace di dire. Almeno questo. Noi io non è conosciuto. No, la rada comunque rispetto a questo. Il pocket money si dà. Il problema che mi dà fastidio quando tu vai a fare la denuncia, sempre loro hanno ragione. È cosa che mi dà molto fastidio. Quando fai la denuncia, sempre loro hanno ragione. Dai, vedere loro hanno ragione. Polizia loro hanno ragione. La costola loro hanno. Ma dove siamo? O perché siamo neri o non lo so chi? Sempre loro hanno ragione. Per fortuna non tutte le strutture lavorano così perché. Ma adesso anche Virginia, l'altra educatrice, sì, sta facendo il, come si chiama? Il tirocinio? No. quello statale che danno. Ah, servizio civile. Servizio civile. E l'hanno mandata a un altro spray. Lei ha detto non posso andare più là, cioè non ce la fa, perché ha detto che il rioperatore non conoscono neanche il nome degli utenti, dei beneficiari, non hanno nessun rapporto. Figurati. Che ha detto che il bilancio non l'hanno fatto da 2017, li stanno facendo adesso tutto perché viene controllato dal ministero. Non c'è una gestione, io comunque il consorzio La Rada ha una buona gestione, le cose si fanno proprio... Sì. A corretta, poi... in maniera corretta. Certo, è un fatto di fiducia nella relazione, cioè nel senso che se lui si sente fregato, fatelo passare, in quella relazione, non potrà mai fidarsi in quella relazione, no? Certo. È normale. È chiaro, no? Io l'unica cosa che ho capito è che qua uno, per avere i suoi diritti, deve imparare bene l'italiano. Sì. L'unica cosa, sì. E deve mettere a loro livello, perché quando trovano che tu parli bene l'italiano, allora a quel punto loro tornano indietro, perché anch'io sono stata veramente maltrattata nei primi anni, ho sofferto, che piangevo la notte, che non vedevo l'ora di tornare nel mio paese, tante volte ho fatto la mia valigia, poi l'ho preparata, cioè è stata dura, Da quanti anni stai qua, vai? 12. 12. Io nei primi anni salgo nell'autobus, poi sono arrivata con quel bombardamento in Francia, in questo, che allora vedono il terrore salito proprio nell'autobus, nel treno. Io mi sedevo qua, si sta uno più vicino a me, si sposta all'altro lato. Oddio, ti giuro. Nei primi anni, cioè, piangevo, poi dopo l'esperienza, quando inizi a parlare bene l'italiano, queste cose ti prende anche fiducia in te stessa, non certo, è lo stesso come... Certo. All'inizio, poi quando capire anche... Sicuro anche senza il velo ci sono altri modi. Sì, però è stata dura, cioè non è facile. Anche esempio una volta nel treno uno mi stava seguendo, ti giuro. Sì. Cioè, arabe, di vattene a casa tua, cioè proprio le cose proprio gravi ho subito. Però c'è la differenza tra adesso e prima, è tanta, adesso viaggi, cioè, no, adesso quando lui sposta dall'altro lato io mi allargo, mi dico la dico che bello stare da solo, c'è la differenza, adesso con sicurezza in te stessa, perché non hai più paura, anche la paura prima, c'era proprio una paura incredibile che tu... hai paura di farci qualcosa, hai paura che non stai nel tuo paese, allora sempre loro hanno... Come ha detto lui, sempre hanno ragione, è vero questa cosa, non c'è. Però quando ti trovano che tu sei capace di parlare, anche con carabinieri, polizie, queste cose, sei più temibile, capito? Allora, cioè, tu ti difendi, allora loro stanno attenti anche di fare qualcosa che non si fa, cambia tanto, cambia. Io veramente mi ha aiutato questa cosa ad andare a studiare, cioè, proprio la cosa che mi ha spinto molto per avere un peso come persona, certo, oltre che come ruolo, che le due cose ci combattiamo, ci aiuteranno magari nella ci combattiamo, perché hai subito qualcosa che l'utente potrà capire, certo, un po' come, certo. Noi quando abbiamo fatto l'associazione, l'anno scorso abbiamo fatto un iftar insieme in piazza, sarebbe Ramadan e c'è la rottura del digiuno. Il sindaco di quella zona è venuto, ha assistito, è stato molto bello, anche il console di Tunisia, è stato veramente un evento importante. Il sindaco ha messo le foto sulle pagine, le devi vedere. Tra l'altro la sindaca di Battipaglia vuole partecipare pure a questa, ma ti dico, è avvocati importanti, insegnante, che insulti che ci hanno dato al sindaco, l'hanno mandato proprio a quel paese, e come ti permette di perdere soldi nostri? Poi l'abbiamo scritto che abbiamo fatto l'evento da tasca nostra, ognuno ha cacciato soldi, non abbiamo preso niente dal comune, da niente. Ieri pure e poi hanno, l'unica cosa cosa che noi abbiamo scritto, la nostra associazione si chiama Ubuntu, abbiamo messo vicino nuove generazioni italiane, noi non siamo straniere, cioè, capito? C'è la generazione che arriva ormai, tutti italiani, miei figli, i suoi figli, questi italiani, non ti permettete di dire che siamo stranieri. Allora, quella cosa, una non l'ha scesa, ma italiane pure! Perché? Anche ieri c'era la festa, una processione della comunità Sikh, e hanno invitato la sindaca e quindi loro hanno, per fare la processione, hanno chiesto al comune di avere la strada libera per fare un'oretta di cammino, niente di. Eppure è venuta la signora, che è abbastanza signora per bene, diciamo. Per bene. Sentite, sindaca, perché date l'autorizzazione a questi? Adesso la nostra strada è chiusa, non posso andare a fare le mie. Ma le processioni le vediamo tutti i giorni. Con... sempre. Qual è la differenza? Quindi la sindaca ha detto: io ho dato l'autorizzazione, come la do alla. Per fortuna, sta sindaca è in gamba. E questa adesso, è un'altra, questa è un'altra. Un'altra. E adesso ha cambiato idea la sindaca. Non era così, aveva un po' paura di. Ultimamente si sta. Sì, ma aveva paura della reazione degli altri. Però ha detto: io non posso accontentare. Hanno paura sempre anche dei loro voti, perché perdono i voti. Certo. Adesso ha cambiato un po' l'idea, vuole anche partecipare a altri eventi con gli altri comunità. Poi adesso i stranieri hanno anche loro, tanti hanno avuto la cittadinanza, Italia. Allora si preoccupano di prendere anche un po' di loro. Ah, vedi, pro e contro. Un passo grande avanti. Va bene. Se mi volete chiedere altro, noi abbiamo terminato il grosso, se mi volete fare qualche domanda, se ci sono, altrimenti possiamo chiudere. Va benissimo. Come gestire una persona che ha come? L'ansia? Come? Come gestire una persona che è ansiosa di natura? A chi ti riferisci? No, non da lei, un'altra persona del gruppo. Come si gestisce? Non è facile. No, dovete... dovreste non accontentarla rispetto all'ansia, perché quando c'è una persona ansiosa in genere si tende sempre a dire sì, vabbè, non ti preoccupare, che c'è da fare, che devo dire, che cerchi, vuoi placare l'ansia aiutandolo, ma in realtà si fa peggio, si amplifica. Ma lei è consapevole di quest'ansia? Sì, cioè questa persona è consapevole di essere ansiosa? Sì, è consapevole, ansiosa. Però non si riesce. Non riesce a, per esempio, diamo via un progetto. Lei invece di pensare al progetto di una maniera globale, però deve pensare ai dettagli di una che non sono tanto importante, e si concentra con questi dettagli e si inizia ad agitare e agita gli altri. E dobbiamo fare questo. Ma voi gliel'avete detto che lei agita gli altri? Sì. Gliel'avete detto scherzando? Sì. Glielo dovreste dire seriamente. Lo dovreste dire seriamente, così lei capisce che c'è un confine. Ma lei è non consapevolissima di questa cosa, quindi non è che certe volte lo la ridimensiona. Dovrebbe guardarsi lei perché ha questa ansia così poi forte. Poi dà abbastanza tanto alle richieste degli utenti. E quindi... che sono continue, certo. Va bene. Chi deve firmare?